Olmi. C'è il ristorante purtroppo, no? Io salto in linea, quello che è l'ospitalità, lascio parlare. Professor Ziegler. Professor Dickerhoff. Dicitemi di male. Da Schweigen. Che c'ha il tesoro? Sì. No, chiedevo all'Olmi che c'ha un tesoro e se lo porta via. Che? Che c'hai? Alberto Aso Rosa insisteva sulla necessità di riconsiderare con occhi più attenti e liberi da codificati pregiudizi un periodo così importante come quello rappresentato dal secolo XVII, le cui istituzioni culturali e ideologiche sarebbero state destinate a durare fino e oltre la presa di coscienza dell'illuminismo in Italia. Non si trattava, secondo l'autore, di ribaltare totalmente il giudizio nel complesso negativo che di quell'epoca era stato dato dalla storiografia ottocentesca e fino a Croce, quanto di saper cogliere, abbandonando visioni troppo monolitiche, l'estrema complessità del periodo, di saper valutare con giusto peso, accanto alla presenza di elementi senz'altro negativi, quanto di nuovo e di originale si poteva trovare nella cultura seicentesca. Non che con questo certo possa dirsi rosea la situazione del tempo nella penisola. L'instaurarsi progressivo, a partire dagli ultimi decenni del Cinquecento, di un pesante clima controriformistico, fatto di drastiche chiusure e decisi irrigidimenti, crea una profonda cesura col passato, ponendo anche gli intellettuali italiani di fronte a drammatici problemi, preliminare a tutti quello della loro stessa giustificazione e sopravvivenza. Lontano ormai, dissolto nelle nebbie del tempo, l'impegno civile umanistico, tipico di uomini come Salutati, Bruni, Valla, che appunto avevano fatto della loro cultura uno strumento di intervento diretto nella vita collettiva, sempre più ardua ogni forma di indipendenza nei confronti della Chiesa, e spesso tra simulazione, asservimento cortigiano e atteggiamento dissociato che l'intellettuale deve scegliere. Eppure il quadro non è monocromo, non si basa su di un unico cupo colore. Troppo sbrigativo e superficiale parlare, come faceva appunto il Croce, di generale decadenza, di venir meno di entusiasmo morale, di un'Italia che stanca si riposava. Con infinite cautele, se vogliamo, tra compromessi e concessioni anche, aggirando le barriere della censura ecclesiastica, ma pure scontrandosi brutalmente e drammaticamente con esse, una parte degli intellettuali italiani cerca, nonostante tutto, altre strade e diverse possibilità di espressione. Mette a punto nuovi strumenti coi quali poter tenere in vita, al di sopra delle discussioni leziose, delle vuote esercitazioni, di un conformismo pur diffuso, quel processo del conoscere per vivere che aveva rappresentato la grande novità della cultura rinascimentale. Una parte, certo, degli intellettuali, sicuramente anzi una minoranza, ma che tuttavia, crediamo, impedisce di vedere il mondo della cultura italiana caratterizzato globalmente da un'impudica libidine di servitù. L'indiscutibile preminenza di comportamenti conformistici e servili non deve portare a disconoscere un altro tratto caratterizzante della cultura seicentesca, quello rappresentato cioè da una ricerca, per quanto tormentata e contraddittoria, di specificità e di concretezza. Soprattutto allora, in questa prospettiva di lettura più attenta e articolata, sarebbe illogico non ritagliare almeno dal resto del secolo XVII quel periodo comprendente all'incirca il primo trentennio, i primi tre decenni, il periodo, ed è nuovamente Aso Rosa ricordarcelo, di gran lunga più creativo, e durante il quale ancora, alla spinta conquistatrice della Chiesa, fa da contrappeso l'attività autonoma dei gruppi intellettuali laici, ancora tutti tesi all'individuazione di nuove forme dell'arte e della conoscenza in un intreccio fecondissimo di spinte e controspinte. Non è certamente fortuito che con singolare precisione, proprio nei limiti cronologici di questo trentennio, prenda l'avvio e si consumi una delle esperienze più interessanti e feconde della cultura italiana nell'età moderna, quella rappresentata cioè dall'Accademia dei Lincei e dai progetti, anche se purtroppo non sempre realizzati, che al suo interno si elaborarono. Io sono abbastanza lento. Il 17 agosto 1603, a Roma, quattro giovani amici, il 18enne Federico Cesi, marchese di Monticelli, futuro duca di Acquasparta, Johannes van Eck, medico olandese, il nobile fabrianese Francesco Stelluti e il conte Anastasio de Filis da Terni, riuniti nella casa del primo, decisero di associarsi in accademia assumendo come emblema della stessa una lince col motto Sagaciusista. Scopo dell'istituzione era quello, per usare le parole dello Descalchi, di trattare le cose tutte che o alla storia naturale o alla geometria o alla matematica appartenessero. Pochi mesi dopo, il 25 dicembre, durante la solenne inaugurazione, Federico Cesi, che per tutta la sua non lunga vita sarà il vero appassionato sostenitore e finanziatore dell'impresa, fu eletto all'unanimità principe perpetuo dell'Accademia. Facendo anch'essi sfoggio di quella inventiva onomastica che tanto caratterizzava gli intellettuali accademici italiani, i quattro lincei si diedero un soprannome con relativa insegna e motto. Ma notiamolo sin d'ora, sono usanze queste che vengono ben presto abbandonate dall'Accademia dei Lincei, cioè tutto questo apparato esteriore, diciamo così, e scelsero come protettore San Giovanni Evangelista. In questa primissima fase i membri dell'Accademia avevano l'obbligo di studiare insieme e di impartirsi l'uno agli altri a turno lezioni secondo le proprie competenze. È un piano di lavoro, quello iniziale dei Lincei, nel complesso un po' incerto e orientato in senso prevalentemente didattico, anche se non mancarono già nei primi anni tentativi di avviare contatti tramite Lecchio con eminenti studiosi in Italia e soprattutto all'estero, Bau, Inclusio, Merman, i quattro sembrano muoversi ancora a livello di salotto privato, di cenacolo ristretto, più che di accademia vera e propria. Ma affatto chiare sono da parte di tutti i membri e da essi tenacemente perseguite le finalità prevalentemente scientifiche dell'istituzione. In questo contesto non tanto colpisce l'ancor vaga qualifica che essi si danno di arcanarum sagacissimi indagatores scienziarum et paracelsice debiti discipline, quanto ben di più l'invito poco posteriore rivolto dal Cesi allo Stelluti a studiare la matematica e la scienza dei vegetativi, quale più si acquista da se stesso speculando, massime essendo in campagna, che leggendo libri altrui. Purtroppo questo primo volo dell'Accademia doveva rivelarsi di assai breve durata. Già sul finire dello stesso anno 1603, tra i familiari del Cesi incominciò a manifestarsi una profonda diffidenza verso quei quattro giovani che non ammettevano alcun estraneo alle loro riunioni e adottavano un cerimoniale quasi religioso, che erano soliti, nello scriversi, usare un codice cifrato ed esaltavano l'utilità del silenzio facendone una norma di vita. Con l'inizio del nuovo anno le opposizioni alla giovane Accademia si fecero più decise e violente. Non è chiaro ancora oggi se l'atteggiamento ostile verso i lincei fosse determinato da sospetti di eresia e malcostume o più semplicemente dal timore del padre di Federico di un plagio del figlio da parte del Lecchio. Fatto si è che uno o più di questi motivi si rivelò letale per la fraterna unione dei lincei. Sottoposti a pressioni e intimidazioni di vario genere, i quattro giovani decisero di separarsi, allontanandosi anche, tranne evidentemente i Cesi, da Roma. Giovanni Ecchio varcò addirittura i confini della penisola per giungere, dopo varie peregrinazioni, in quel crogiuolo di intellettuali esuli della Sinè che era la Praga di Rodolfo II. Tuttavia, nonostante la distanza, mai cessarono i rapporti tra i membri dell'Accademia, né venne meno in loro il concetto di linceatura. Il comune modo, cioè, di intendere il processo conoscitivo e più in particolare il progresso scientifico. E sarà soprattutto il giovane principe Cesi, colui che sarà definito pochi anni dopo da un membro dell'Accademia Juvenis ad maxima quaeque natus et perspicacissimo ingenio dotatus, a rimanere tenacemente attaccato al primitivo progetto, spronando gli amici nei momenti di sconforto, incitandoli di continuo allo studio, soccorrendoli alla bisogna, come nel caso del Lecchio, anche finanziariamente. Attendo agli studi col maggior fervor che abbia mai fatto, afferma il Cesi, e così pure si eserciti lo Stelluti, totis viribus, nella matematica, che anche in questa la speculazione giova assai, la quale nasce grandemente dalla solitudine e dalla campagna, et deve essere sempre compagna a ciascedun linceo. Tramite le lettere, insomma, l'Accademia continua in un certo senso a vivere. Addirittura con questo stesso mezzo si prendono decisioni comuni e si tengono adunanze. Pure l'esilio del Lecchio può rivelarsi in fondo non del tutto negativo per i lincei. Lui non avrà fatto poco per viaggio, poiché fa amici all'Accademia quanti valentomini trova, et osserva quanto vede, et spero questo suo viaggio sarà per riuscire molto utile all'Accademia. Al medico olandese in viaggio per l'Europa giungono da parte del Cesi pressanti richieste di libri introvabili in Italia, di semi di piante, Agliacque, Digne, Aliceo. Il giovane principe, da parte sua, ha in mente solo e disperatamente la ricostituzione effettiva dell'Accademia e il bene della stessa. Il pensiero mio fisso sempre all'utile dei Lincei e dell'Accademia. Con l'aiuto dei compagni cerca di tessere un'utile rete di conoscenze. Egli stesso, durante un viaggio a Napoli, stringe rapporti con il naturalista Ferrante Imperato e l'ormai celebre Gian Battista Della Porta. Scottato dalla precedente esperienza, si dedica con cura alla stesura degli ordinamenti dell'Accademia, leggi, costituzioni e statuti, affinché con essi, se fedelmente rispettati, possa essere garantita la forza e la crescita della futura rinata istituzione. Quanto al presente, occorre soprattutto lavorare senza dare nell'occhio, mostrarsi acquiescenti, adottare una sorta di comportamento nicodemitico in attesa di tempi migliori. Insomma, col corpo fingo di dormire, l'animo veglia più che mai, col tempo maturano le nespole e ti sciocchi si ritrovano con un palmo di naso. Questi tempi migliori dovevano venire finalmente sulla fine del decennio, premiando l'incrollabile fiducia e la tenacia del Cesi. Divenuto maggiorenne e superato l'opposizione dei parenti, il principe dei Lincei poteva, tra il 1609 e il 1610, ridar vita alla luce del sole all'Accademia. Né ripresa poteva essere più felice. Già nel 1610 il vecchio Della Porta appone il proprio nome all'alba dei Lincei. Nel 1611 la volta di Galileo Galilei e Johann Faber. Nel 12 di Fabio Colonna e con loro, e poi via via, di altri che porteranno nel 1625 il tetto massimo dei membri al numero di 32. Una affermazione di grande prestigio per l'Accademia e inoltre una dimostrazione del fascino che esercitava e della stima di cui godeva. Una istituzione concepita nella mente di un ragazzo di soli 18 anni, fortemente osteggiata dai familiari dello stesso, e solo condivisa da tre personaggi, altrettanto giovani, pressoché sconosciuti, e neppure, almeno per quanto riguarda i De Filis di grande valore, non solo era riuscita a sopravvivere e a riprendere quota, ma era stata capace altresì di attirare nella propria orbita alcuni dei nomi più prestigiosi del mondo scientifico italiano ed europeo. Che d'altronde l'istituzione romana mostrasse un volto affatto nuovo e originale, che emergesse insomma piuttosto chiaramente all'interno del generale panorama accademico della penisola, sembra un dato senz'altro assodato e dimostrabile. È certo che il programma dei Lincei, il loro metodo di lavoro, nonché i progetti che si contava di realizzare, dovevano essere grandemente apprezzati e condivisi se un Galileo e altri membri non trascuravano mai, pur essendo talvolta contemporaneamente iscritti a diverse accademie, di porre accanto al nome, nei frontespizi delle loro opere, la qualifica di accademico linceo. Ma se questo in fondo era pur sempre una prescrizione obbligatoria, ben più alte e significative allora il rilievo che assume l'atteggiamento di un Fabio Colonna, allorché, schernendosi, accetta con evidente gioia la scrizione «Nullis virtutis me meritis inter tot eximios viros» e preconizza l'invidia di tutti quegli scienziati non cooptati fra i lincei. O l'orgogliosa certezza dello Stelliola, che l'istituzione Stelliola, della nobile Accademia Lincea segnerà l'inizio di un secolo eroico, apportando splendore alla nostra Italia ed illustramento a secoli. Se dunque l'iscrizione all'albo Linceo è ritenuta e di fatto rappresenta per gli accademici un chiaro segno di distinzione, la sanzione migliore del loro valore scientifico, sarà indispensabile, crediamo, proprio per riuscire a cogliere l'originalità dell'istituzione romana, cercare di capirne in primo luogo i motivi della fondazione, le finalità che programmaticamente perseguiva e quindi l'attività e la regolamentazione interna. Soprattutto per quanto riguarda il primo punto, sarebbe sicuramente assai utile poter avere quelle notizie che oggi nel complesso ci mancano sull'educazione ricevuta dal Cesi in gioventù, sugli studi compiuti e sugli ambienti da lui frequentati prima del 1603. Tuttavia, anche in mancanza di queste conoscenze, è possibile tentare ugualmente una ricostruzione basandoci unicamente sulla documentazione pervenutaci, tutta posteriore alla fondazione della prima Accademia, cioè al 1603. In questa direzione, importanza notevole particolarmente assume un documento già giustamente segnalato anni or sono da Ezio Raimondi, Il discorso tenuto dal Cesi a Napoli, presumibilmente nel 1616, è significativamente intitolato «Del natural desiderio di sapere e istituzione dei Lincei per adempimento di esso». Per giustificare la creazione dell'Accademia, il Cesi parte da un'analisi serrata della vita intellettuale del tempo, pervenendo a diagnosi concise ma estremamente puntuali. Una delle prime riflessioni riguarda il livello degli studi universitari, che certamente in quel primo Seicento non poteva non presentarsi al principe dei Lincei nel complesso appiattito e scadente. Da due secoli almeno, infatti, la tradizionale dinamicità dell'università medievale era andata progressivamente spegnendosi, e se già la cultura umanistico-rinascimentale si era affermata almeno in parte fuori dalle scuole universitarie, se non proprio in contrasto con esse, la situazione era andata poi ulteriormente peggiorando nella seconda metà del Cinquecento, complici anche, almeno per quel che riguarda l'Italia, gli irrigidimenti controriformistici della Chiesa post-tridentina. Mentre scompariva il carattere internazionale dell'istituzione medievale, proprio anche per la voluta attivazione di meccanismi di protezionismo scolastico, l'università, scontrandosi con i pubblici poteri, con le nuove realtà statali nascenti, diventava ad essi sottomessa giuridicamente ed economicamente, e quale custode sorvegliante ormai dell'ortodossia, tendeva ad assolvere, per usare un'espressione di Le Goff, la funzione di polizia ideologica. Centro di formazione professionale al servizio dello Stato, nel quale quindi è spesso evidente il valore fortemente utilitario attribuito allo studio, l'università abdica il ruolo di luogo di ricerca in favore di un insegnamento ripetitivo e inevitabilmente arretrato. Non più sollecitato dalle appassionate discussioni e dal dinamismo della classe studentesca, spesso sottoposto a forme di controllo politico, lo stesso corpo insegnante tende a rinchiudersi, a trasformarsi in una casta vieppiù sclerotizzata, impermeabile ad ogni sollecitazione realmente innovativa. Anche se eccezioni evidentemente non mancano, e pensiamo a Padova, pensiamo a Leida, l'eclissi dell'istituzione universitaria nella prima età moderna rappresenta un dato di fatto che non riguarda solo pochi paesi o singole zone geografiche. Quasi ovunque in Europa le autorità politiche e religiose non mancano di esercitare un controllo sempre più pesante e capillare, da Königsberg a Oxford e a Ginevra per l'area protestante, da Vienna a Ingolstadt per quella cattolica. È un processo che trova puntuale traduzione anche in Italia. All'interno del Granducato Mediceo, se a Pisa il rettore finisce per diventare esecutore materiale degli intendimenti governativi, ugualmente a Siena svaniscono ben presto nel nulla le pur ampie prerogative e l'autonomia che ancora la riforma di Ferdinando I del 1591 aveva conferito agli scolari e alla loro associazione. E così, nello stato della Chiesa, si fa sempre più evidente a Perugia l'intervento dei governatori apostolici nelle faccende scolastiche, mentre a Bologna Gregorio XIII impedisce al vescovo della città, come al Senato, ogni iniziativa di riforma dello studio per demandarla alle mani accentratrici del cardinale legato. Parallelamente poi al diffondersi di queste forme di controllo, o se vogliamo almeno in parte come loro corollario, si evidenzia tutto un processo di disgregazione anche all'interno stesso delle istituzioni. Gravi irregolarità nella nomina dei lettori, lezioni tenute assai saltuariamente, tumulti studenteschi, ricerca di dottorati facili più che di un desiderio di cultura. Lucidamente consapevole della realtà, dell'esistenza di fenomeni degenerativi di questo tipo, il Cesi appunta le sue critiche soprattutto contro gli insegnanti, contro coloro che se pretendono possiedono pubblica lettura, procurano acquistare nome grande ed autorità per conseguirla e mantenerla sempre con nuovi argomenti, e la loro mira è più nel parer che nell'essere, ed aver fama di dottrina che di sapere. Nessun amore per la verità e la libera ricerca nel corpo docente, ma solo la preoccupazione di riportare pedissequamente le opinioni autorizzate dagli pareri più comuni della setta regnante. Deposta ogni magistrale autorità, si cerca solo l'approvazione degli studenti, col giungere sino a riceverli a casa, condurli alla lezione e poi ricondurli, e simili complimenti e modi più di corte che di studio. Se nessuna difficoltà infine presenta il conseguimento della laurea, dal momento che essa indifferentemente corona tutti quelli che finiscono il corso, sono sempre citazioni, ancor più da biasimare la tendenza a considerarla come meta e termine ordinariamente alle studiose fatiche, sicché ogni neodottore crede non esservi più null'altro da imparare una volta terminati gli studi universitari. ma più in generale è tutto il mondo della cultura che è caratterizzato per Cesi dall'incapacità di ragionare con la propria testa, di vedere con i propri occhi. Sì che si serva l'autorità di questo o quello dell'antichi, si sostiene questa o quella setta, onde mentre solo s'apprendono le cose filosofate da altri e si godono i frutti degli intelletti altrui, con la pigrizia e sterilità dei nostri propri, ben ci riduciamo ad essere filodossi invece dei filosofi. È chiaro allora come possa una tendenza di questo tipo, ora così esquisitamente seguita dagli aristotelici, impedire non solo la necessaria lezione del libro dell'universo, ma anche di qualsivoglia libro che non sia uscito dalla favorita setta e da cari maestri. A queste amare riflessioni sulle carenze dell'insegnamento universitario e su coloro che, vivendo in timoroso rispetto degli autori antichi, si fanno criticamente portatori di un sapere in gran parte superato, il principe dei Niceni aggiunge una terza relativa al fine per il quale si studia, fine che non è rappresentata, gli dice, dalla conoscenza disinteressata, ma dal guadagno, gli onori, favori e comodità. Ecco perché dalla maggior parte dei studiosi sono seguite quelle professioni che maggiormente promettono tali facili guadagni, e cioè le leggi e la medicina. È una constatazione questa dei Cesi che perfettamente conferma quanto si diceva in breve poc'anzi sulla caratterizzazione fortemente utilitaria degli studi universitari e che viene peraltro avvalorata dalla testimonianza di un alto prelato come il Bellarmino, che lamentandosi nel 1580 col Paleotti dello stato disastroso della teologia in Italia, affermava: altro non si vede se non giuristi e canonisti, medici e filosofi. Ciò che si trascura dunque è il leggere questo grande, verifico e universale libro del mondo, visitare le parti di esso ed esercitarsi nell'osservare ed sperimentare per fondare in questi due buoni mezzi un'acuta e profonda contemplazione, rappresentandoci il primo le cose come sono ed asseverano, l'altro come possiamo noi stessi alterarli e variarli. È un passo questo singolarmente importante che, riprendendo in fondo quanto già aveva affermato Bruno a proposito della facoltà dell'uomo di poter non solo operare secondo la natura ed ordinario, ma ed oltre, fuori le leggi di quella, esclude un sapere unicamente contemplativo per proporre, tramite la scoperta delle cause, un intervento diretto e modificatore sulla realtà naturale. Anche se certo non si può escludere un qualche richiamo al carattere operativo della magia, c'è un Della Porta, ricordiamo, tra i primi lincei, occorre però fare una chiara distinzione fra un tipo di intervento, quale appunto quello magico, che circondandosi di un'aura di mistero quasi sacra, parte dalla certezza di una corrispondenza precisa fra uomo e cosmo, per cercare di inserirsi nel gioco delle simpatie e antipatie, e quello invece che emerge dalle parole del Cesi, tutto fondato sul momento sperimentale. Gli strumenti coi quali gli accademici lincei cercheranno infatti di giungere a una comprensione della realtà naturale, i soli ed unici principi di saper qualche cosa in questo mondo saranno le matematiche e le esperienze naturali. E nella loro azione si sforzeranno, per usare un'espressione del Cesi relativa alla lavorazione delle lenti del telescopio, di soggiogare la materia al matematico rigore. È una linea di condotta questa lincea che continua ad emergere anche dal discorso che stiamo esaminando. Per conoscere a fondo la natura, di nessuna utilità possono riuscire gli studi medici finalizzati al guadagno, né quelli giuridici. Occorre invece dedicarsi con profondo spirito di sacrificio a quelle discipline che, pur essendo le più abbandonate dall'elite, sono tali che più ci danno di cognizione e più ci apportano di perfezione ed ornamento, dico la gran filosofia, le matematiche e le filologiche poetiche erudizioni. Ora, su questa direttrice, volendo uscire dalle paludi dell'insegnamento universitario assolutamente carente per le materie scientifiche, ma anche per ovviare ai limiti di collegi e seminari che similmente licenziano conseguite la laurea, non restava al Cesi e compagni, una volta dato per scontato il poco e defettuoso potere dei soli e divisi e la forza delle unioni e cospirazioni ben ordinate, che dar vita a una propria associazione con finalità affatto nuove. L'alternativa non poteva che essere rappresentata dall'Accademia, anche se si trattava di una scelta istituzionale già parecchio sfruttata nel nostro Paese e che, conservando assai poco della vivacità del modello umanistico, era venuta via via offrendo risultati nel complesso ampiamente deludenti. Centro di un sapere spesso già in partenza vuoto e conformistico, questo tipo di istituzione pullulava nel primo 600, per usare un'espressione del Buoni che ha citato nel suo libro Benzoni, per ogni seno e angolo d'Italia. Ma non alle accademie che aveva sotto gli occhi, non a quei luoghi nei quali, come affermava Botero, le penne sono cambiate in pugnali e di calamari in fiaschi d'archibusci, le dispute in sanguinose risse, pensava il Cesi, ma ad una istituzione vigorosamente unita che fosse promotrice e centro di studioso lavoro assiduo indefesso, e i cui membri, rifiutata l'accettazione a prioristica degli scritti o detti di questo o quello maestro, l'affezione più ad un autore, più ad una setta che all'altra, nel continuo ricercare, sperimentare e contemplare, riscoprono le proprietà delle cose e ne notano sempre gli effetti e le cagioni. Se si esamina, come in parte è stato fatto, il vasto panorama accademico italiano sulla base del repertorio del Mailänder, si può immediatamente notare come le istituzioni con un programma scientifico si presentino in una percentuale fortemente minoritaria. Una scelta quindi, come quella dei Lincei, dichiaratamente orientata verso la matematica e le scienze naturali, rappresenta senz'altro un primo elemento di netta caratterizzazione dell'Accademia Romana rispetto a tutte le altre della penisola. Le prescrizioni lincee sono chiarissime su questo punto. L'Accademia Lincea accoglie al suo interno studiosi qui disciplinis naturalibus presertim ac mathematici sededant, isque sedulam commodent operam. Lo spazio, pur contemplato, che si lascia alle lettere e alla filologia ha espressamente un valore di ornamento, di elegantissima veste che serve ad abbellire relicum totum scienziarum corpus. Gli stessi letterati che verranno ascritti all'Accademia Romana, scusate, per la maggior parte comunque nel secondo momento della sua attività, o avranno come Cesarini e Ciampoli forti interessi scientifici, o saranno assolutamente figure di secondo piano, senza alcun peso sulla politica culturale dell'istituzione. Federico Cesi, ben conscio ed orgoglioso del carattere affatto nuovo e specifico dell'Accademia Lincea, non perderà occasione per ribadirlo. E a salvaguardia di contaminazioni esterne cercherà costantemente di scavare una sorta di profondo fossato tra la sua e le altre istituzioni. Egli sa perfettamente che le accademie letterarie, trascurate ormai le lezioni utili e ricche, sono solo in grado di diffondere dicerie pompose e vane, così come non gli sfugge la facilità con cui queste istituzioni si disgregano appena nate o finiscono prima o poi, inevitabilmente, nell'abbraccio a un tempo protettivo e soffocante del potere politico. Proprio per parare questi pericoli concretamente incombenti, il Cesi, fin dalla fondazione dell'Accademia, lavorerà lungamente alla stesura del linceografo, una sorta di dettagliato statuto che avrebbe dovuto nelle sue intenzioni regolare in maniera rigorosa l'accesso all'Accademia nonché la vita della stessa. Il linceografo non solo non fu mai dato alle stampe, un manoscritto di parecchie centinaia di cartelle, ma proprio per il suo estremo rigore trova anche una minima applicazione pratica. Tuttavia esso rappresenta un documento singolare e assai importante perché ci illumina sul tipo di Accademia che almeno teoricamente il Cesi voleva creare. Accuratamente selezionati al momento della cooptazione, lontani dalle cure mondane e, come vedremo, soprattutto dalle contese politiche e dalle dispute religiose, obbligate a una condotta prudente e nel più totale disprezzo dei piaceri della carne, per due o tre volte appunto si insiste neppure di frequentare donne di malaffare e così via, i lincei avrebbero dovuto vivere in pace e concordia senza alcuna manifestazione di ira ed invidia, concentrando tutti i loro sforzi nella ricerca scientifica. Ogni momento della vita dei lincei, dalla malattia ai viaggi al tempo libero alla vita sessuale, è scrupolosamente previsto e minuziosamente regolamentato. I rapporti con la realtà esterna, così come quelli tra i singoli accademici, debbono essere tenuti sulla base di direttrici rigidamente fissate. Non è un caso, quindi, che l'accesso all'Accademia Romana sia espressamente negato a coloro che già appartengono a ordini religiosi. Non si possono seguire due regole. Chi decide di seguire quella lincea, dedicandosi asceticamente alla ricerca scientifica, contrae un impegno affatto primario e vincolante. Assumerne altri significa sottrarre energia allo studio e quindi imboccare una strada di assoluta incompatibilità. Non v'è alcun dubbio che nel fissare le strutture e il regolamento della sua accademia, il Cesi si sia ispirato alle regole degli ordini religiosi. La compattezza e la sintonia interna di alcuni di essi, in primo luogo di quello dei gesuiti, non dovettero mancare di esercitare un grande fascino sul giovane principe, che ad esse probabilmente guardò come a un modello da seguire. Per resistere agli attacchi esterni e all'usura del tempo, per parare un eventuale lassismo dei propri membri, l'Accademia Lincea doveva darsi non norme vaghe ed elastiche, ma una regola rigorosa che ricalcasse appunto quella degli ordini religiosi. Ecco perché gli appartenenti all'istituzione cesiana costituiscono infatti, secondo il linceografo, ancor prima che un'accademia, un ordo, è la prima definizione che si dà, e al pari dei gesuiti sono anch'essi una milizia, sebbene in questo caso filosofica, che ha cioè come proprio fine non la glorificazione di Dio, ma l'acquisto delle filosofiche e matematiche scienze, e più in generale il progresso della scienza. La regola che vietava a un liceo la contemporanea appartenenza a un ordine religioso fu una di quelle che ebbero sempre applicazione pratica. Giovanni Schreck, allorché decise di entrare nella Compagnia di Gesù, dovette uscire dall'Accademia. Egli cessò di essere, come dice il Cesi, un liceo libero. E a proposito della sua scelta, significativamente parla ai Galilei di gran perdita della nostra compagnia, i Lincei appunto, e di positivo acquisto dell'altra compagnia, i Gesuiti, manifestando con queste espressioni come neppure a lui sfuggissero tutte quelle caratteristiche che avvicinavano grandemente l'istituzione accademica cesiana alla struttura degli ordini religiosi. Chi abbia una sufficiente conoscenza della storia breve eppure straordinariamente intensa dei Lincei non potrà, crediamo, cadere nell'errore di inserire anche gli sforzi normativi del Cesi, la sua costante preoccupazione di dotare l'Accademia di un regolamento estremamente dettagliato, all'interno di quella più generale smania normativa che tanto caratterizzava gran parte delle altre accademie della penisola. Il liceografo, cioè, non va semplicisticamente interpretato come codificazione di un vuoto cerimoniale, come tentativo di ricoprire sotto un ammanto di norme minuziose l'assenza totale di un piano preordinato di sviluppo e di finalità chiaramente espresse. L'azione del Cesi e dei più avvertiti tra i Lincei è tutta orientata a far sì che l'Accademia si stabilisca con sodo fondamento, poggi su basi tale da poter resistere nel tempo solo contando sulle proprie forze. Orbene, questo è precisamente lo scopo dei principi e delle ordinate costituzioni: mettere al riparo l'istituzione da ogni azione disgregatrice sia interna che esterna, indicare con estrema esattezza una strada sicura da battere che garantisca per il presente come per il futuro un ordinato progresso negli studi scientifici. Nel periodo che vede la preparazione e lo scoppio della guerra dei 30 anni, mentre ancora sicuramente ben vivo il ricordo del rogo di Giordano Bruno, Federico Cesi tenta un'operazione delicatissima, di alto equilibrismo, anche se per molti versi destinata prima o poi al fallimento. Mentre nella penisola italiana, fatto ormai oggetto di attenzione tutta particolare da parte della Chiesa romana, l'intervento censorio, già estesosi a partire dagli ultimi decenni del Cinquecento, ben al di là del semplice campo religioso, ha determinato un sempre più rigido e generale blocco alla circolazione delle idee, il principe dei Lincei cerca di guidare la nave della sua accademia lungo una rotta di assoluta neutralità, lontano da ogni coinvolgimento di tipo politico o religioso. Di questa linea di condotta il liceografo è uno specchio quanto mai fedele. Ogni atteggiamento critico verso l'ordine costituito è vietato, ogni scelta troppo radicale bandita. In campo religioso si prescrive ai Lincei un'accettazione pienamente ortodossa della religione cattolica e dei dettami della Chiesa romana. Corollario di questo atteggiamento affatto allineato saranno da un lato l'invito a rispettare e ad onorare gli ecclesiastici, dall'altro il divieto assoluto di innescare sia con le parole che con gli scritti qualsiasi controversia in materia religiosa e di applicarsi a studi condannati dalla Chiesa. Non diverso deve essere l'atteggiamento degli accademici lincei nei confronti del potere politico. L'indicazione del linceografo è perentoria, assoluta obbedienza ai principi del cui comportamento non ci si deve mai lamentare. L'atteggiamento di prudenza sembra scadere addirittura nel più basso servilismo, nella cortigianeria più smaccata, mentre si invitano gli accademici a lodare, voce et scriptis, le buone azioni dei principi, si prescrive agli stessi di mantenere il più totale silenzio sulle malvagie, non giudicare né permettere che altri lo facciano. L'invito a non occuparsi assolutamente di politica finisce per estendersi anche alla ricerca storica. Il pericolo di pesanti interventi censori, insito in un'eventuale accettazione del modello storiografico umanistico, è con tutta evidenza ben presente al compilatore del linceografo. All'impegno civile, che costituiva la base portante, la linfa vitale delle opere di un Machiavelli o di un Guicciardini, si contrappone ora, in questo primo Seicento, il divieto assoluto di scrivere delle geste dei principi. L'unico sbocco permesso ai lincei è quello di illustrare antiquiora quaedam. L'attitudine negativa della controriforma nei riguardi degli studi storici e ancor più la loro strumentalizzazione in chiave esclusivamente controversistica sconsiglia ogni accostamento ad argomenti contemporanei di scottante attualità, lasciando aperta solo la porta della più asettica ricerca antiquaria. Infatti dice proprio, si dice nel geografo, che la storia assomiglia troppo alla politica per cui è stare lontano. Che dice? Sì, sì, beh, infatti dopo salta fuori, anche lui salterà fuori. Lo stesso atteggiamento prudente ed equidistante assunto nei confronti del potere politico e religioso deve più in generale essere fatto proprio dai lincei in tutte le manifestazioni della loro vita pubblica. Nel campo scientifico le diversità di opinione sono sì ovviamente permesse e anche sollecitate, ma gli accademici sono invitati a non manifestarle troppo pubblicamente e a mantenere nei confronti degli avversari un comportamento estremamente modesto. Già questi pochi riferimenti confermano, ci pare, quanto si diceva inizialmente. Secondo il Cesi, sono solo una linea di condotta tale da non offrire pretesti per invidie, sospetti, persecuzioni, può costituire una garanzia sicura per la sopravvivenza dell'Accademia. È un atteggiamento questo, peraltro, diffusamente riscontrabile in tutto il mondo accademico della penisola. Non organico per eccellenza e quindi politicamente irrilevante, l'intellettuale italiano cerca di sopravvivere come tale anche all'interno delle strutture accademiche, evitando con cura tutti quegli ostacoli e quelle reti vischiose che la situazione politica e religiosa del paese pare erigere continuamente sul suo cammino. L'adeguamento al clima controriformistico è per lo più pronto e immediato. A Napoli, ad esempio, lo statuto dell'Accademia degli Oziosi, un statuto che è stato più volte ricordato, parla chiaro: non si deve leggere alcuna materia di teologia o della Sacra Scrittura, delle quali per riverenza dobbiamo astenerci, e medesimamente ognuna delle cose appartenenti al pubblico governo, i quali si deve lasciare alla cura dei principi che ne reggono. La somiglianza di indicazioni di questo tipo con quelle espresse nel linceografo è pressoché totale, e tuttavia, ripetiamo, non ci sembrerebbe corretto estendere anche all'Accademia Cesiana l'accusa di piatto conformismo senza prima aver oltrepassato il più superficiale livello di lettura. Che infatti, se nella maggior parte delle accademie italiane il perfetto allineamento all'establishment vigente si traduce in una perdita di libertà culturale, l'ortodossia statutaria dei lincei, al contrario, è tutta finalizzata, pur utopisticamente se vogliamo, alla salvaguardia di tale libertà, a garantire il dibattito e la libera ricerca. Di temperamento schivo e riservato, dispregiatore del servilismo imperante nelle corti, pronto a ironizzare sul fatto che in luogo dell'universale filosofia le più sottili e copiose scienze nel mondo siano le cerimonie e complimenti, l'arte dei cibi e delle vesti, Federico Cesi è per intima natura decisamente contrario ad ogni vuota apparenza, è assai poco disposto ad accettare gli uomini, come invece faceva della casa, non per quello che essi veramente vogliono, ma come si fa delle monete per quello che corrono. Ma pure non gli fanno difetto un fine realismo politico e un preciso senso della misura. La stessa sua origine e la diretta esperienza non mancano soprattutto di fare di lui un buon conoscitore del mondo romano del primo Seicento. I tempi veramente tempestosi e le congiunture presenti poco favorevoli agli negoti e massime studiosi, dei quali parla Galileo nell'aprile del 24, costituivano in realtà una norma per la penisola ormai da parecchi decenni, e di tale situazione egli doveva essere ben consapevole sin dalla fondazione dell'Accademia. In particolare, il ricordo delle persecuzioni subite nel 1603 dai primi lincei, ricordo che non a caso gli rimarrà per tutta la vita, quasi come un'ossessione scolpita nella mente, spinge i Cesi ad assumere un atteggiamento estremamente prudente e circospetto, che poco avendo a che fare con il conformismo e la doppiezza, è bensì frutto di un'analisi affatto realistica delle possibilità di manovra offerte dalla situazione del tempo. Come è stato osservato in un ottimo lavoro di alcuni anni or sono, la simulazione trova la sua positività quando, rifiutando i terreni di scontro posti dall'epoca stoica, scopre terreni nuovi su cui accampare valori alternativi, in genere valori futuri. Anche al di fuori del campo religioso, Federico Cesi, da parte sua, poteva d'altronde ben rifarsi a una tradizione già consolidata del mondo culturale italiano. Non aveva forse, nella visione disincantata di un Guicciardini, realisticamente trovato un proprio spazio e giustificazione, anche l'uso della simulazione, eventualmente applicato in qualche solo in qualche cosa molto importante, adesso ricordo 104, 114, non ricordo bene. Orbene, il principe dei Lincei, se certo non ha posizioni religiosamente eterodosse da nascondere, ha però terreni nuovi, valori futuri, qualche cosa molto importante appunto da difendere. La libertà di pensiero, gli studi scientifici, l'avanzamento del sapere. Egli è, senza alcun dubbio, come molti tra i Lincei, sinceramente cattolico, ma avverte che questo ora non basta più a garantire, specialmente a Roma, la sopravvivenza di un'accademia che, trascurati i componimenti poetici e le vuote discussioni letterarie, si dedica a studi carichi di novità come quelli scientifici. Per salvaguardare questi ultimi occorre smussare tutti gli angoli, appiattire ogni asperità, allinearsi formalmente in maniera totale. Il linceografo, se da un lato rispetta l'ideale accademico del Cesi, trattando del modo di vivere dei lincei, dall'altro rappresenta proprio col dare anche indicazioni sulle azioni, governo e cautele dei vari membri, pure il frutto di una lucida analisi della realtà. La sua è anche una funzione di scudo protettivo nei confronti dell'Accademia, e proprio per questo viene scritto e fondato, secondo l'affermazione stessa del Cesi, tutto sopra la politica et ragion di Stato. Ed è proprio questa ragion di Stato a consigliare, o meglio ad imporre la ricerca per la scienza, di un terreno di perfetta neutralità, impermeabile agli influssi e alle vicende esterni, tramite la decisa esclusione di ogni dibattito su problemi politici e religiosi e la piena accettazione dello status quo vigente. Non la paura di perdere il luogo della propria legittimazione e autoglorificazione spinge i Lincei a questa soluzione, bensì il tentativo di trovare più sicure possibilità di studio e di indagine. Il riferimento per l'Accademia Cesiana non va ancora una volta cercato nelle alte istituzioni della penisola, bensì all'interno del più generale contesto europeo, in rapporto col quale anzi i Lincei possono, per molti versi, proporsi come precorritori. La loro infatti sarà una linea di condotta adottata al di là delle Alpi anche da altre istituzioni scientifiche e da singoli studiosi. Se non proprio tempestosi come in Italia, pure nel resto del continente però i tempi non potevano certo dirsi facili. Ovunque le passioni religiose e i conflitti ideologici spingevano la nuova scienza a crescere inizialmente entro recinti opportunamente delimitati. In Inghilterra il cosiddetto gruppo del 1645 e poco più tardi la stessa Royal Society organizzeranno la propria attività in modo da eludere ogni forma di scontro e dissidio, evitando accuratamente le questioni politiche e religiose. Richiamandosi agli statuti dell'istituzione, Henry Oldenburg, segretario della Royal Society, scriverà significativamente nel 1663 a Edgar Leibner: la Royal Society dichiara che non rientra nei suoi scopi indagare su problemi di carattere scolastico o teologico, perché il suo unico compito è quello di coltivare la conoscenza della natura e delle arti utili per mezzo dell'osservazione e dell'esperimento e di promuoverle per la salvaguardia e l'utilità della vita umana. Questi sono i confini entro i quali la Royal Society limita l'attività di questa assemblea inglese di filosofi e che essi stessi riterrebbero quanto mai scorretto travalicare. Altrettanto significativa è la posizione di Cartesio, allorché dopo la profonda impressione in lui suscitata dalla condanna di Galileo, rinuncia a pubblicare Il Mondo e stende il discorso sul metodo. Per non rinunciare a vivere il più possibile felicemente, lo scienziato francese si dà una morale provvisoria consistente in 3 o 4 massime. La prima era di obbedire alle leggi e ai costumi del mio paese, serbando fede alla religione nella quale Dio mi ha fatto la grazia di essere educato sin dall'infanzia, e regolandomi nel resto secondo le opinioni più moderate, lontane da ogni eccesso e comunemente seguite dalle persone più assennate con le quali dovevo vivere. Così, mentre in Francia, nell'assemblea settimanale del Bureau d'Adresse dei fratelli Renaudot, si discute di problemi filosofici e scientifici, ma certamente non di politica e teologia, in Italia poi saranno gli stessi membri dell'Accademia del Cimento a prevenire ogni intervento inquisitoriale, scegliendo accuratamente i campi di azione e ponendosi limiti precisi. Crollato bruscamente sotto i duri colpi delle guerre di religione e delle crisi economiche, l'ideale unitario rinascimentale, un toscano di prima mattina, è stato micidiale. L'intellettuale all'inizio del XVII secolo è costretto a vivere, anzi a gestire per sopravvivere, una condizione di separazione, di netta frattura. Prima ancora che Hobbes proponga le sue drastiche scissioni tra politica e morale, pubblico e privato, cittadino e uomo, Cartesio sceglie la via dell'indipendenza interiore a prezzo di una cosciente rinuncia ad ogni innovazione esteriore. Secolo antico molto più pubblico, secolo d'oggi molto più privato. È una frase del Cesi, scritta purtroppo a mo' di appunto e pertanto senza ulteriori chiarimenti, ma che tuttavia ci sembra confermi appieno quanto sin qui detto. Il principe dei Lincei ha compreso perfettamente che un mondo è finito, che la grande decompartimentalizzazione rinascimentale del sapere è ormai agonizzante. Ciò che soprattutto avviene in Italia gli conferma la pericolosità di ogni forma di impegno civile, la vanità di qualsiasi tentativo di conciliare l'attività pubblica con l'indagine critica. Solo il ripiegamento in un ambito privato e un'estrema cautela nel pubblicizzare i risultati degli studi può mettere a riparo dagli attacchi dei peripatetici, veternosi e nemici di ogni cosa nuova, garantendo nel contempo la libera ricerca. Come ha osservato Roman Schnur, in tempi di crisi, di guerra civile o comunque di profondo rivolgimento spirituale, può accadere che l'uomo, il singolo, ove assume una posizione critica, non accettando di riconoscere nel sapere tramandato una limitazione ai propri interrogativi, prenda necessariamente le distanze dalla politica, vista come questione del conforme, divenendo pertanto completamente apolitico ed asociale, tendendo cioè a sfuggire, oltre che alla politica, anche al tipo di socialità che questa produce. Orbene, proprio come quel tipico rappresentante della crisi manierista che era il Pontormo, ritirava, una volta giunto nella sua stanza, la scala di legno che ne rappresentava l'unico accesso a ciò ognuno potesse salire da lui senza sua voglia o saputa, come riferisce il Vasari, così Federico Cesi cala la scala che immette alla sua accademia solo per ammettervi persone accuratamente selezionate ed è sempre pronta a ritirarla al primo sentore di pericolo. Si tratta nuovamente di un atteggiamento riscontrabile pur con sfumature diverse a livello europeo. Soprattutto prima che l'ala protettiva dello Stato si stenda su di essa, l'istituzione accademica si presenta spesso come rifugio, come luogo della spoliticizzazione e della neutralizzazione del conflitto. Manifestando un comportamento per taluni aspetti simile a quelli dei circoli parigini, rigidamente chiusi verso l'esterno in modo da risultare tanto più forti al proprio interno, l'Accademia dei Lincei non ha alcun interesse a mettersi in concorrenza con le altre accademie, ma si contenta starsene da sé, come dice il Cesi. Evita insomma qualsiasi forma di osmosi e di pubblicità potenzialmente pericolosa. Il rispetto totale e incondizionato per l'ideologia corrente, che in realtà significa, come visto, un altrettanto pieno estraniamento dalla politica, si traduce ulteriormente in una posizione di perfetta equidistanza tra le parti in lotta. Dal momento che chiaramente solo la pace garantisce una libera ricerca scientifica, non resta i Lincei in una situazione di conflitto che porre tutte le nazioni sullo stesso piano, evitando ogni forma di partecipazione nelle contese tra i principi. Si dice chiaramente all'inceofo che in caso di guerre non si deve prendere posizione per un principe o per l'altro, per una nazione o per l'altra. E che invece appunto poi l'ideale è vivere sempre in pace. Chi in tempi di forzato conformismo pensa in termini anticonformistici e sa di essere portatore di messaggi nuovi, mette naturalmente in atto appropriati artifici e cautele per evitare che le proprie idee si scontrino brutalmente con l'ideologia e la censura dei conformisti. In questa stessa direzione si muove il Cesi, adottando un atteggiamento prudente verso l'esterno e preparando gradualmente nel contempo un terreno idoneo a recepire i risultati delle indagini dei Lincei. In attesa dei tempi più favorevoli occorre solo concentrarsi sul lavoro, considerando che le cose grandi hanno bisogno di molta maturità e pazienza. Sono ancora relativamente lontani i tempi in cui il gesuita René Rapin si scaglierà contro la scienza, il vano spirito di curiosità che rende restio l'uomo a sottomettersi alla fede. Ma Federico Cesi non si fa alcuna illusione sull'accoglienza che avrà, soprattutto nel mondo romano, il lavoro di coloro che studiano sperando un giorno aver la vera costituzione della fabbrica mondiale già tanto controversa. Di qui allora, accanto probabilmente a quella implicita necessità di celarsi, tipica delle élite intellettuali del tempo, preludente a quella che sarà l'importante funzione del segreto, la progressiva adozione anche di una sorta di autocensura secondo una prassi, come notava anche Vasoli nel convegno di Santa Margherita Ligure, se ricordo bene, secondo una prassi ormai ampiamente diffusa all'interno di una generazione di studiosi duramente provata da decenni di sistematica repressione. Una precauzione senz'altro importante e preliminare e per Cesi quella di evitare che troppi sguardi si concentrino sull'Accademia e che quest'ultima, pur essendo ampiamente di fatto, manifesti in modo palese la sua diversità rispetto alle altre istituzioni. I licei non devono correre il rischio di venire bruciati, irrompendo improvvisamente su una scena culturale rispettosa della tradizione e dominata da inveterate opinioni. Occorre invece che con le loro ricerche e pubblicazioni essi si facciano lentamente conoscere e rispettare, si creino con pazienza dei propri spazi di manovra e giungano infine, dopo aver coinvolto nel programma accademico più ampi strati di studiosi, ad ottenere il pieno consenso e l'appoggio dell'autorità. Ma intanto, nella fase iniziale del progetto, è necessario che le regole del gioco vengano formalmente rispettate, che non si parli con alcuno dell'Accademia, perché è necessario con più prime stabilire e in più luoghi schivare invidia e persecuzioni facili. Continue sono le esortazioni dei Cesi affinché, per maggior cautela, si parli dei licei come di un'Accademia ordinaria di filosofi, con toni smorzati, senza ingrandire. All'esterno tutto deve sembrare perfettamente rientrante nella norma, omogeneo al sistema. Ogni mossa intempestiva deve essere accuratamente evitata. Il vantaggio di questo atteggiamento cauto, di questa forma di simulazione, sarà proprio quella, per dirla con Bacone, nel sesto dei suoi saggi, se ben ricordo, di sorprendere i propri nemici addormentandone l'attenzione. Purtroppo la strategia pazientemente elaborata dal Cesi, i suoi sforzi appunto di addormentare l'attenzione degli avversari verranno vanificati non solo da un apparato di controllo estremamente vigile come quello in possesso della Chiesa, capace di fiutare il pericolo assai in profondità senza farsi depistare da atteggiamenti esteriori formalmente corretti, ma anche dall'ingenuo ottimismo, un'espressione di Gemola, dall'ingenuo ottimismo, dagli errori di calcolo del più rappresentativo tra gli accademici romani, Galileo Galilei. Poiché forse l'uso fatto in precedenza di termini come simulazione segreto può aver ingenerato degli equivoci, occorre chiarire una volta per tutte che i lincei nulla hanno a che fare con il cosiddetto libertinaggio erudito, almeno nei termini in cui esso è stato così ben descritto dal Pintar, né con quelle figure anticonformistiche studiate per l'area italiana dallo Spini, ancora nel 1950. Come pure d'altra parte non ci sembrano appropriati i tentativi opposti di accostare l'Accademia Lincea al movimento della Riforma Cattolica, nonostante i documentati rapporti tra la famiglia Cesi e l'oratorio di San Filippo Neri. Ponendosi su un piano del tutto diverso, i Lincei sono per una piena libertà di opinione nelle cose meramente fisiche e matematiche. Essi costituiscono, o vogliono quantomeno costituire, se mi è permessa l'espressione, una accademia laica, non contraria cioè alla religione cattolica o scetticamente indifferente alle verità di fede, ma neppure disposta a rinunciare all'autonomia del sapere e al valore dimostrativo, per quanto mondano e limitato, dell'esperienza. La separazione e ad un tempo la non conflittualità tra scienza e fede rappresentano i veri fulcri del programma Linceo. È assurdo, come scriverà il Ciampoli, pretendere di insegnare la scienza con la Bibbia. Spiritus Paracletus non docet ars veritates, Christianos enim vult facere, non mathematicos. Sinceramente cattolico come Galileo, il Cesi si trova anche pienamente d'accordo con lo scienziato toscano sulla necessità che non si debba desiderare che la natura si accomodi a quello che parrebbe meglio disposto e ordinato a noi, e che occorre invece che noi accomodiamo l'intelletto nostro a quello che ella ha fatto, sicuri tale essere l'ottimo et non altro. Ma se di Galileo il principe dei Lincei condivide pressoché totalmente le ipotesi scientifiche, non altrettanto pieno sembra apparire, anche dal carteggio tra i due, l'accordo sul più generale programma culturale, o meglio, sui tempi e sui modi di diffusione delle ipotesi stesse. Più in particolare, la dissomiglianza d'atteggiamento tra i due, chiaramente dovuta a una diversa valutazione della situazione storica, riguarda ancora una volta i rapporti dell'Accademia con l'esterno, con la cultura ufficiale e l'istituzione ecclesiastica. A confronto con quelle di Galileo, che nella sua battaglia per un radicale rinnovamento culturale, avente come presupposto l'eliminazione della aristotelica contaminazione tra fisica e teologia, crede troppo ottimisticamente di poter coinvolgere la Chiesa cattolica, le mosse del Cesi sono assai più caute e circospette, si fondano su tempi più lunghi, sono tipiche insomma di chi sembra aver lucidamente compreso che la macchina inquisitoriale, ancora perfettamente oliata e funzionante, dopo aver messo fuori causa eretici, scrittori satirici e filosofi, non avrebbe mancato di cogliere il minimo pretesto per dirigersi infine anche contro gli scienziati. Federico Cesi fonda pertanto la sua strategia tutta sulla gradualità, mirando cioè soprattutto, anche con l'aiuto del Cesarini e del Ciampoli, entrambi ottimamente inseriti nella gerarchia ecclesiastica e vicini al Papa, a preparare un terreno favorevole all'accoglimento del programma galileiano. Ma affinché il progetto si concretizzi è assolutamente necessario che lo scienziato toscano non affretti i tempi, che soprattutto non attacchi per primo, per non parere di incolparsi col voler tentare le difese ove non è chi muova guerra. Se le acque sono calme è inutile e dannoso volerle a tutti i costi agitare. Dal momento che in caso contrario il prezzo da pagare sembra presentarsi assai pesante, è meglio per Galileo schivare affatto il parlare di Copernico e più in generale evitare di farsi trascinare sul terreno scritturale. Non si ha da fare alcuna menzione di sacre lettere, ma sempre parlare come filosofo. Mentre più di una volta vari lincei consigliano a Galileo di non esporsi in prima persona, facendo invece rispondere da altri, in genere da allievi più giovani, alle confutazioni degli avversari, o tentano per quanto possibile di operare una sorta di censura preventiva sul saggiatore, leggendolo prima che esca e facendo osservazioni su ciò che si desiderava o moderato o mutato o taciuto, l'azione diplomatica del Cesi non conosce soste. Sua è la famosa lettera al Bellarmino del 14 agosto 1618, nella quale non manca di esaltare la novità delle scoperte galileiane. Suoi sono la corte invito rivolta a Galileo a scrivere subito al nipote del Papa Francesco Barberini con vero affetto d'obbligo di servitù, e l'iniziativa è di certo anche abilmente propagandistica di far rilegare circa 60 copie del saggiatore da donare a questi signori cardinali curiosi e prelati e altri amici. Insomma, se tanto Galileo come Cesi non riescono in fondo a comprendere che un effettivo progresso della conoscenza non può darsi se non all'interno di un'altrettanta profonda e radicale modificazione della realtà politico-sociale e dei rapporti istituzionali, il secondo almeno è in possesso di una visione più vera e disincantata della situazione. Riesce a leggere politicamente i segni del tempo e a capire in sostanza ciò che appunto un politico smaliziato come l'ambasciatore mediceo Piero Guicciardini aveva pur lucidamente compreso a proposito del clima del mondo romano. Questo non è paese da venire a disputare della luna, né da voler, nel secolo che corre, sostenere né portarci dottrine nuove. Certo resta del tutto aperto il discorso su quanto avrebbero effettivamente guadagnato Galileo e Lincei in termini di piena libertà di ricerca se la morte prematura del Cesi, oltre a provocare di fatto lo scioglimento dell'Accademia, non avesse posto bruscamente fine anche a quella sua politica di prudente equidistanza, basata soprattutto sullo sforzo di mantenere la scienza su di un terreno di piena neutralità. Ma per quanto difficile, se non addirittura assurda, si presenti sempre una valutazione a posteriori, ci pare di poter abbastanza tranquillamente osservare che ormai nell'Italia controriformata, del tutto intollerante era l'atteggiamento della Chiesa verso ogni posizione minimamente deviante, verso tutto ciò che aveva sapore di novità. E dunque il tentativo del Cesi, anche se probabilmente l'unico oggettivamente possibile nella realtà data, non poteva mancare di rivelare prima o poi il suo aspetto utopico. Una piena adesione al sistema sul piano religioso e politico, non seguita però anche da un altrettanto pieno consenso su quello culturale, avrebbe finito per mostrare il fianco ad attacchi sempre più aspri e continui. In questi termini, una posizione di neutralità non poteva non apparire come un mero artificio e perciò sospetta. Proprio la condanna di Galileo, che probabilmente neppure un Cesi sarebbe riuscito più ad evitare, avrebbe dimostrato da un lato la fine di ogni tentativo di compromesso, della speranza di poter continuare a far uso di colori sfumati, senza ricorrere alle tinte fortemente contrastate, dall'altro invece la definitiva affermazione di un metodo di giudizio esclusivamente basato sulla rigida contrapposizione ortodossia-eterodossia. In sostanza si può affermare che l'idea del Cesi di elevare attorno alla ricerca, grazie, alla ricerca scientifica un apposito recinto nella quale essa poteva svilupparsi liberamente, lontana dal mondo della politica e della teologia, rappresentava certo l'unica possibilità di sopravvivenza per la ricerca stessa. Non a caso sarebbe stata questa la via seguita in Italia dagli scienziati post-galileiani, ma mentre questi, aderendo a un ruolo professionale ben definito, avrebbero decisamente ripiegato sull'empirismo e sulla tecnica pura, i Lincei non si accorsero del passo falso già compiuto in partenza, del virus letale che sin dall'inizio si portavano in corpo e che sarebbe stato in parte causa della loro rovina. La piena accettazione, cioè, di quella teoria copernicana, che lungi dall'avere solo l'innocuo carattere di ipotesi meramente scientifica, significava anche l'introduzione di un nuovo stile di pensiero, di proposte metodologiche potenzialmente dirompenti per il sistema. La terapia preventiva del CESI, insomma, non poteva sul lungo periodo non rivelarsi inefficace dal momento che già il male era in atto. Allorché l'imbuto della repressione si restrinse ulteriormente, i lincei non poterono più evitare di cozzare contro quegli ostacoli pericolosi che durante tutto il periodo precedente di vita dell'Accademia avevano cercato accuratamente di evitare. Siete distrutti già? Ma sembra il parlante distrutto, noi invece siamo calmissimi, in ottime condizioni, perché dici delle cose molto belle. Tuttavia, come già si è detto, malgrado la breve parabola, quella dei lincei fu un'esperienza affatto nuova e per molti versi all'avanguardia in Europa. Nonostante il suo carattere chiuso e riservato, l'Accademia Cesiana raggiunse una buona fama tra i contemporanei anche al di là delle Alpi e soprattutto nell'area germanica, come dimostrato dal fatto che una delle due sole accademie italiane ricordate da Hermann Conring alcune decine d'anni dopo la morte del Cesi sarà proprio quella lincea. Ma al di là della ricerca di tracce più o meno consistenti lasciate nella cultura italiana ed europea dall'istituzione romana, tra l'altro anche il Tassoni, vabbè, che era vicino ai lincei, ricorda proprio il Cesi tra così i grandi innovatori della cultura, e lo ricorda stranamente subito dopo Aldrovandi. Sì, subito dopo Aldrovandi. Converrà comunque sottolineare la modernità e quasi il primato di un cammino intrapreso pur tra innumerevoli difficoltà. Una fiducia illimitata nella ricerca scientifica e nei risultati da essa prodotti sta innanzitutto alla base del progetto accademico del Cesi. Tale fiducia emerge chiaramente nell'Linceografo, un testo per molti aspetti utopico e che si colloca non solo idealmente, ma considerati i tempi di stesura, anche di fatto, tra la città del sole campaneriana e la nuova Atlantide di Bacone. E qui aprendo una breve parentesi che non ho approfondito, c'è tutto il problema del neostoicismo, secondo me, che è presente anche, ne parlavo col professor Raimondi di sera, cioè parecchi indizi appunto portano a vedere anche notevoli influssi neostoici nel Linceografo. Il Cesi era un grande ammiratore di Lipsio, possedeva tutti i suoi libri e così via. Comunque, come nella nuova Atlantide di Bacone, appunto, anche nel Linceografo in fondo viene prefigurata una comunità di uomini che fa degli studi scientifici una esclusiva ragione di vita, quasi una sorta di religione, e tramite essi il diretto contatto con la natura è convinta di aprire nuove e sospettate strade all'umanità, facendola uscire dalle tenebre nelle quali l'aveva avvolta una cultura sclerotizzata e libresca. Comunità di studiosi vuol dire infine ricerca scientifica organizzata. Ritrovarsi in un'accademia significa per i lincei solo questo: lavorare insieme, comunicarsi i risultati raggiunti, aiutarsi reciprocamente. Essendo difficile che tutte le scienze in uno si ritrovano, siano tutte in tutti, e in molte in un tempo si lavori e cooperi. Federico Cesi giunge a progettare come sede di studio per i propri compagni delle specie di case di Salomone, ampi edifici cioè dotati di biblioteche, strumenti, museo, orto botanico, nei quali i lincei possono anche vivere stabilmente e gratuitamente, dedicandosi solo alla ricerca, a stretto contatto l'uno con l'altro. Anche, sì, siamo a livello monacale, anche se la breve vita dell'Accademia finì per limitare di fatto la collaborazione tra lincei a una sola opera, il Tesoro Messicano, fu ugualmente ben viva nella mente del Cesi la convinzione che un vero allargamento degli orizzonti della conoscenza poteva venire solo da un'equipe, meglio da più equipe di studiosi disposti a lavorare in modo coordinato e a far circolare quindi i risultati delle proprie indagini. Siamo perciò, pur se embrionalmente, in presenza di una vera e propria razionalizzazione della ricerca scientifica. Al lavoro, per quanto geniale del singolo, si contrappone quello collettivo, caratterizzato da minor dispendio di energie e dalla capacità di giungere in minor tempo a risultati positivi, valorizzando anche ogni pur minimo contributo, che se solitario rischia di andare disperso. Il puro e semplice piacere di conoscere può, è vero, spingere di per sé solo allo studio. Il sapere stesso è lo scopo e basta a muovere. Ma occorre anche poi che la scienza trovi una sua giustificazione esterna, che soddisfi esigenze pratiche, che cioè serva, sia utile. La conoscenza della natura in funzione di un miglioramento delle condizioni dell'uomo, punto centrale delle teorizzazioni di Bacone e ancor prima di tanti altri scienziati cinquecenteschi, rappresenta pure l'asse portante del programma Linceo. L'Accademia Cesiana si configura anche come risposta affatto concreta ed efficace ai problemi che affliggono l'umanità. Dalle ricerche dei suoi membri nascono gli strumenti ammirandi, si trovano i più rari medicamenti, i fuochi, le armi, le difese, le macchine, le evasioni d'acque, tanti segreti per facilità dell'arti, necessari al vitto umano, per i comodi, per la sanità, per il vitto stesso. Anche se poi ancora relativamente lontani i tempi dell'Accademia Nazionale propugnata da Leibniz, non sfugge al Cesi quella che può essere una utilizzazione in chiave politica dell'indagine scientifica. Da quest'ultima potrà infatti derivare sì utile al pubblico, ma anche servizio agli principi. Potranno anche, oltre all'invenzione, aversi da questi i frutti delle eroiche azioni in servizio e utile dei loro superiori e maggiori, dico in pace, in guerra e in ogni stato. Esempio immediato e positivo di applicazione è il telescopio galileiano, a tutti già utilissimo in uso d'osservazioni ed osservazioni e di governo e di guerra. Ecco, c'è da dire però che queste così, affermazioni di utilità del lavoro dei chiademi nei confronti dello Stato sono un po', specialmente in Italia, un luogo comune in quel tempo. Basta leggere i passi del Bargagli, dell'Olio, dell'Alberti, riportati tra l'altro in quel bellissimo saggio del professor Pecorella, così per accorgersi come sia quindi una sorta di meccanismo dell'Accademia per autogiustificare, cioè se si legge invece l'atto di fondazione di Federico di Prussia dell'Accademia di Berlino, vediamo come lì veramente si sia su un altro pianeta, insomma, come ancora molto più limitate, ancora a metà del Settecento Ludovico Antonio Muratori quando propone un suo Accademia di Stato, insomma, rispetto almeno Leibniz. Questa necessità dello scienziato di scendere su di un terreno concreto, di soddisfare pure bisogni contingenti, insomma fortemente sentita dai lincei, anche se poi il loro tipo di ricerca finisce per risolversi praticamente su di un piano per lo più teorico. La compenetrazione attiva tra scienza e tecnica, già così operante all'interno della nostra cultura quattrocentesca e ragione tra le prime dello sviluppo scientifico inglese a partire dalla seconda metà del XVI secolo, trova dei convinti assertori anche all'interno dell'istituzione cesiana. L'insegnamento fondamentale, ricavabile dall'osservazione dei metodi di lavoro degli artigiani, è ben apprezzata da Giovan Battista Winter, un giovane bavarese, intimo del Cesare il Faber, che così scrive allo stesso cancelliere dei licei. Qui a Venezia ho trovato e cominciato a conoscere cose bellissime, e ora cominciai a imparare e a sapere che si fa più profitto nelle botteghe e, come vostra signoria è solito dire, appresso libilissimi artefici, che aput illos maniloquos et cathedralizios magistros, qui sibi doctrinam omnem libris reponum et in priorum preceptis seu propri intellectus machinulis inixi aliquid ignorare gloriosus ducum, quam ab experientia et ipsam et rerum inspezione et tractazione aliquid certius addiscere. Non solo tanto però la valorizzazione della tecnica, l'appello all'esperienza o la proclamazione dell'utilità della scienza, che possono, pur se importanti, caratterizzare in senso decisamente nuovo l'Accademia dei Lincei, quanto proprio una diversa visione dell'uomo e della natura, nonché più in particolare del ruolo dello scienziato. Per gli accademici lincei l'impresa scientifica non ha in genere più il carattere di incomunicabile esperienza mistica. La ricerca non ha per loro senso alcuno se i risultati della stessa non vengono ampiamente pubblicizzati, diffusi in modo capillare. Questo è forse l'aspetto più importante e moderno del programma cesiano che occorre pertanto sottolineare con forza, al di là di ogni atteggiamento prudente e di apparente chiusura dettato ai lincei dalla situazione politico-religiosa del tempo. Respingendo decisamente l'atteggiamento degli antichi sapienti che, volendo custodire la scienza dai profani, impedivano ai loro discepoli di frequentare le persone incolte, tutto un passo a questo proposito del Cesi. Cesi è invece convinto che occorra aprire anche agli ignoranti la via degli studi verso la sapienza, aiutare tutti secondo le proprie forze, senza disprezzare nessuno. Non si tratta quindi di una divulgazione rivolta solo agli addetti ai lavori, a utili dei virtuosi, bensì all'intera società. Il lavoro dello scienziato deve anche avere delle finalità d'ordine sociale. Le conoscenze acquisite devono essere messe al servizio della comunità. Se scoppiassero, è scritto nel liceografo, pestilenze, contagi o altri malanni in quei luoghi dove si trovano dei lincei, ricordino costoro di diffondere cure e metodi di prevenzione per l'utilità del popolo pubblicando appositi volumi. Proprio questo impegno vincolante di diffondere i risultati delle proprie ricerche spiega in buona parte il rilievo tutto particolare assunto presso gli accademici romani dall'attività editoriale. Il primo dovere di un liceo dopo lo studio è quello di scrivere libri. Evitata ogni compromissione a livello politico e qualsivoglia coinvolgimento sul piano della disputa teologica, i lincei, in nome, onore e fama, hanno da averlo e ottenerlo solo con libri e opere. E questo è pubblicare un obbligo previsto dai regolamenti stessi dell'istituzione cesiana e che rappresenta un ulteriore motivo di profonda differenziazione di quest'ultima dalle altre accademie della penisola. Il libro rappresenta la prova più concreta e visibile del lavoro svolto e ad un tempo il mezzo migliore di pubblicizzazione dello stesso. I licei rifiutano ben presto gran parte del vuoto cerimoniale tipico dell'Accademia Letteraria per contrapporre adesso i risultati effettivi delle loro ricerche. Alla sterile conversazione, alle parole, preferiscono decisamente i fatti, la rigorosità del lavoro. Lo stesso ritrovarsi insieme, l'adunanza, ragione prima di vita di tante accademie, passa per i licei decisamente in secondo ordine rispetto all'attività editoriale. Non sarà proprio dell'Accademia, così suonano le prescrizioni ai licei, dedicarsi alle recitazioni, declamazioni o dissertazioni cattedratiche, così come ritrovarsi frequentemente in gran numero, eccetto che per l'espletamento dell'ordinaria amministrazione dell'istituzione. Solo lo studio, l'osservazione delle cose naturali rappresenta per i licei una valida ragione di trovarsi insieme. Quanto alle pubblicazioni, l'Accademia stessa si fa carico di tutte le spese di stampa. Anche in questo caso, il progetto del CESI prevede che gli accademici vengano del tutto liberati da ogni preoccupazione d'ordine materiale. Il loro compito è solo quello di scrivere e pubblicare le loro fatiche, anche per evitare, come tante volte in passato è accaduto, che col tempo vadano completamente dispersi importanti risultati scientifici. Proprio questo timore spiega ampiamente la cura tutta particolare che Federico Cesi mette nel cercare di pubblicare a proprie spese le opere inedite di Antonio Persio dopo che questi è morto. Oltre ad essere un insostituibile mezzo di diffusione dei risultati delle ricerche, i libri dei licei funzionano anche implicitamente come biglietto da visita dell'Accademia, come efficace strumento di propaganda. Essi servono, insomma, come scrive Marco Welser da Augusta, a dar credito ed autorità all'istituto e ad invogliare nel contempo i vari studiosi a chiedere l'iscrizione tra i licei, importando assai che le persone siano allettate a procurare da se stesso l'ingresso, estimandolo singolare grazia senza che sia loro offerto. Se l'opera stampa rappresenta lo sbocco naturale e conclusivo di ogni ricerca, è il mezzo più idoneo per rendere partecipe il grosso pubblico dei risultati raggiunti, esso però non può evidentemente rappresentare per i licei l'unica forma di contatto a livello di informazione scientifica. È proprio lo stesso principio di collaborazione sul quale si fonda l'Accademia che postula un tipo di informazione più continuo e cadenzato nel tempo. Per poter dare consigli appropriati, fornire aiuti concreti, è necessario cioè che i licei siano sin dall'inizio a conoscenza delle ricerche dei colleghi e che le seguano mentre ancora sono in fieri, venendo continuamente ragguagliati sui progressi della stessa. A una relativa carenza di contatti personali, di colloqui diretti, causata dalle distanze che spesso separavano i vari accademici, i licei pongono rimedio con una fitta rete di corrispondenza. La lettera, questo mezzo di comunicazione che, per usare le parole di Garin, riflette fedelmente il tono di una cultura che rompe con l'ideale di un sapere come contemplazione solitaria, costituisce per Cesi e compagni la materia unificante, il cemento dell'Accademia. È sullo scambio epistolare che l'istituzione si regge, è per suo tramite che il dibattito può svilupparsi e la ricerca divenire effettivamente comune. Coscienti della sua importanza, i licei rendono in pratica obbligatoria questa forma di contatto e di scambio reciproco. Virginio Cesarini comunica a Galileo le proprie impressioni, anche per essere istituto del nostro consesso liceo, il ragguagliarci per lettera delle fatiche studiose. Veramente essenziale poi è il rapporto epistolare fra i licei, anche in considerazione del fatto che la loro accademia, come afferma orgogliosamente il Cesi, non è d'un luogo particolare dove va chi vuole, ma una universale scelta di letterati che si fa per tutto. Il principe pone cioè l'accento non solo sulla consuetudine di operare una selezione tra coloro che chiedono l'ammissione tra i licei, ma anche sul carattere, per così dire, internazionale dell'Accademia, che si fa per tutto, appunto. Poiché quindi le occasioni di incontro tra studiosi non solo italiani, ma anche di altri paesi devono essere forzatamente assai rare, era ovvio che si cercasse di ovviare adesso tramite, appunto, lo scambio epistolare. Il progetto cesiano di un'accademia che superasse non solo i confini di una città, ma addirittura anche quelli di un paese, rappresenta indubbiamente l'anticipazione di una tendenza che pochi decenni dopo si svilupperà in tutta Europa. Il principe dei licei giunge anzi a vagheggiare tutta una serie di sedi distaccate dell'accademia, i cosiddetti licei, situate praticamente in tutto il mondo, erette ognuna da un viceprincipe. Oltre alle sedi di Roma e Napoli, le uniche effettivamente poi realizzate, se vogliamo in parte un po' Firenze, Il linceografo parla, tra le altre, di Padova, Vienna, Colonia, Augusta, Parigi, Lomagno, dell'Asia, dell'Africa e delle Indie occidentali. E qui un po' si ricalca il piano quasi delle missioni. Sì. Ma come si diceva poc'anzi, seppur l'Accademia ambisce ad essere costituita da studiosi di ogni parte della terra, purché cattolici si intende, assai selettive di contro il meccanismo di cooptazione. Affaticarsi nei principi propagativi dell'Accademia, come sostiene il Cesi, significa provocare un rialzo delle domande di ammissione e conseguentemente ampliare anche la possibilità di scelta. Il numero dei licei viene di certo tenuto volutamente piuttosto basso, sia per far anconascere il zelo di questa strettezza e rarità, come per una costante cautela di tipo politico, ma non sono evidentemente questi gli unici motivi. Gli è proprio che per venire ammessi nell'Accademia Cesiana occorre essere in possesso di determinati requisiti. Non è cioè sufficiente proclamarsi semplicemente scienziati, è necessario essere scienziati di un certo tipo. In sostanza, stando alle parole del Winter, che riportano però fedelmente il pensiero del Cesi, coloro che aspirano a ricevere il titolo di liceo bisogna che siano valentomini, o che abbiano stampato, o che sappiano il gran guaglio della loro dottrina, che promette in futuro un frutto segnalatissimo. Come si vede, accanto al solito determinante valore dato alla produzione scritta, ci si preoccupa anche della dottrina, cioè del valore scientifico dell'aspirante liceo. Prima di ammettere nell'Accademia nuovi soggetti, si istruisce una sorta di indagine e faremo che questi che si riceveranno si pigli informazione e si formi processo, che sia eccellente in qualche professione e raro nell'essere suo, se sia far lezioni in alcuna città principale e stampati anche libri e approvati dal mondo e simili cose che si ci penserà. Il requisito principale che si richiede è senza alcun dubbio quello di essere sintonizzati con tutti gli altri lincei e con le ricerche che essi conducono, di non mostrarsi in sostanza schiavi della tradizione rifiutando il metodo sperimentale. Questo è il vero elemento discriminante. La candidatura del napoletano Giulio Cesare La Galla, che da gran pezzo ha mostrato desiderio di essere linceo, viene respinta perché egli è troppo giurato per il patetico e la sua opera, dei fenomeni sin orbe lune, non appare soddisfacente. È inoltre costume accademico che su ogni eventuale nuova iscrizione tutti i licei diano il loro parere, in modo che si possa procedere solo in presenza di un accordo totale. Questo è il modo che si usa e mi pare necessario, consistendo la forza e vigore della nostra impresa nell'unione e stretto vincolo degli animi, che si conserva con l'amore e dandosi un fratello a tutti, tutti siano prima informati e richiesti a concorrere favorevolmente, a ciò abbiano parte, ne siano contenti e vedano che il negozio cammina ordinatamente. Chi in fondo, nonostante la frase riportata poco sopra, vabbè che non l'ho detta ma era sua, una poi, anche su questi aspetti rimane estraneo o comunque non comprende fino a fondo il nuovo spirito e il rigore che animano l'Accademia Lincea e il vecchio Della Porta. Dopo i giovanili entusiasmi, lo stesso Cesi comprende che il napoletano, soprattutto se messo a confronto con la figura di Galileo, è per molti aspetti uno scienziato di un'altra epoca, del passato, e tenderà pertanto a farne sempre più col tempo un semplice vanto formale dell'Accademia, escludendolo di fatto da ogni momento realmente decisionale. Mentre il linceografo espressamente prevede che dei lincei possano far parte non solo i nobili di nascita, ma anche coloro che tali sono diventati per propria virtù, litteris ad ingenio, il Porta invece è soprattutto convinto dei vantaggi derivanti all'Accademia dalla presenza di principi e cavalieri riguardevoli. In perfetta sintonia con quanto generalmente avveniva nella penisola, egli si preoccupa solo degli aspetti esteriori dell'istituzione accademica, senza capire che invece il Cesi vuole fare un effettivo ed esclusivo luogo di studio e di ricerca. Nel proporre nuovi licei sembra prestare più attenzione alle cariche politiche, alla fama mondana dei personaggi, più che al loro effettivo valore scientifico. In stridente contrasto con la tradizionale riservatezza dei licei, lo studioso napoletano è soprattutto preoccupato di far confezionare o ricevere vesti di seta d'oro o di broccato, giubbe e mantelli. Abituato al lavoro solitario, addirittura segreto, il Della Porta rimane insomma estraneo al precetto liceo della ricerca organizzata in comune e concepisce pertanto l'Accademia come un momento di gratificazione tutto mondano. Ecco perché col suo continuo proporre nuovi candidati disse a far letteralmente, e cito, disperare il Cesi, che al contrario vuole, come visto, fondare l'Accademia su specialisti, su pochi, ma validi e seri studiosi. Ecco, questo giudizio sul Porta come uomo di un altro mondo, del passato, e poi il giudizio che i lincei danno poi sostanzialmente, ad esempio, su Campanella, con cui pure sono in contatto. Il loro giudizio è molto simile a quello che Mersenna di Campanella scrivendo per Esce, cioè, sì. Quanto riguarda la scienza nulla abbiamo da lui da imparare, infatti Cesi scrive poi a Galileo e gli mostra di gustare poco delle matematiche e le sue cose sogliono andare in volta a pezzi e restare sorprese in mano dei particolari. Completamente diversa invece l'intesa con Galileo. Le persone da lui proposte vengono senz'altro accettate tra i licei e sempre con solerzia il Cesi richiede il suo parere sui nuovi candidati. D'altronde quella di Galileo nell'Accademia non è una presenza di poco conto. Non è un caso che per bocca dei Demisiani lo scienziato toscano venga definito monarca dei letterati licei dal momento che sin dall'inizio il suo programma scientifico verrà fatto proprio dall'intera Accademia. Assai felice ci sembra l'espressione del Lecchio allorché di Galileo dice che ha a Lincei occhi giontosi e avventurosi occhiali. Pur se indubbiamente chiaro il riferimento all'invenzione del telescopio, la frase va interpretata in un significato ben più ampio. Ai primitivi progetti e all'ancora confusa aspirazione dei Lincei, Galilei offre obiettivi precisi, concretezza, un metodo di lavoro assolutamente limpido. Gli occhiali da lui aggiunti determinano infatti non solo un potenziamento della vista degli occhi, ma anche e soprattutto di quella della mente, della capacità cioè di studiare senza condizionamento alcuno la natura e di scoprire le leggi. Anche se Cesi, non solo per un probabile calcolo di natura politica, ma proprio per la profonda avversione verso ogni forma di vincolo a prioristico, respinge la definizione di copernicana data alla sua Accademia, si spaventa, appena uno certo. Scrive so che siete copernicani, dice oh, no, non è vero. È chiaro che del programma galileiano i Lincei fanno la loro bandiera. Solo così si capiscono le assicurazioni date dallo stesso Cesi allo scienziato toscano che tutti i Lincei muoveranno contro i suoi avversari e scriveranno sempre in suo favore. Come l'invito posteriore del Cesarini a replicare al Sarsi e altri malevoli, dal momento che costoro, attaccando Galileo, hanno anche offeso il nome pubblico dei Lincei. Ed è sempre Cesarini a darci una conferma del ruolo fondamentale giocato da Galileo all'interno dell'Accademia, allorché scrivendogli definisce i Lincei una radunanza da me sempre riverita per molti titoli, ma particolarmente per risplendere in fronte di essa in nome di Vostra Signoria. Ormai siamo alla fine, resistete. Altrettanto significativi sono gli sforzi compiuti da Cesi, particolarmente da Cesi, Cesarini e Ciampoli, per cercare di evitare un eventuale conflitto tra scienza e fede, cioè in concreto tra Galileo e l'autorità ecclesiastica. Ciampoli, avuta notizia dell'uscita in Napoli dell'opera del carmelitano Paolo Antonio Foscarini, che tratta non essere contrario alle scritture sacre, tra la religione cattolica, l'opinione del moto della terra, e dalla stabilità dal sole, comunica allo scienziato toscano che farà il possibile per trovarne uno e mandarglielo, manifestando con ciò il proprio vivo desiderio di trovare altri punti di sostegno a quella che sul problema era l'opinione generale dei Lincei. Proprio anche questa costante azione svolta a sostegno di Galileo mette bene in luce l'intelligenza e la modernità dei tre Lincei subnominati. Come Cesi, non scienziati strictu sensu, ma dilettanti o se vogliamo semplici cultori della materia, Cesarini e Ciampoli vanno tuttavia senz'altro annoverati tra le vere forze trainanti dell'Accademia. In particolare la figura di Giovanni Ciampoli, a suo tempo giudicata non troppo benevolmente dal Gabrieli, ma poi positivamente rivalutata anche al di là del campo strettamente letterario, soprattutto per merito del Raimondi, aspetta ancora di essere studiato in modo approfondito. Il fatto stesso che Tommaso Cornelio ricordi il Ciampoli accanto ad esempio a un Cartesio, tra i rinnovatori della filosofia, testimonia la stima della quale il prelato godeva già tra gli scienziati del suo tempo. Lucidamente convinto che sarebbe propriamente delirio insipido ripudiare la natura per maestra, egli è pure pronto a sostenere che altra cosa è la fede, altra è la scienza. Quella si soggetta all'autorità, questa non crede ad altri che alla dimostrazione. I due campi devono restare nettamente separati e questo si noti bene a vantaggio non solo del progresso scientifico, ma anche della stessa religione. Il suo razionalismo religioso lo porta naturalmente a negare qualsiasi forma di conflittualità tra filosofia e teologia e anzi a rivendicare alla Chiesa il progresso dell'intelligenza, evitando che la stessa si esponga a pericoli derisi. Entusiasta delle nuove invenzioni, pronto ad accogliere con ammirazione i frutti di un progresso che ha donato un mondo nuovo al mondo antico, Ciampoli, non avendo una preparazione decisamente scientifica, conduce la sua battaglia tutta su di un più generale piano culturale con una costanza e una coerenza di pensiero superiori forse a quelle di un Galileo. Anche il collezionista ed esperto d'arte Cassiano Dal Pozzo è un altro di quei Lincei che pur non avendo troppa dimestichezza con i problemi strettamente scientifici trovano una logica collocazione all'interno dell'Accademia proprio perché ne condividono lo spirito affatto nuovo che l'anima. Il rapporto epistolare con alcune delle personalità più rilevanti della cultura, soprattutto francese, Perez, Ménestrier, Naudet, Bordelot, il Dal Pozzo non manca mai di rendersi utile all'Accademia. Da Fontainebleau segnala ai Lincei la presenza di raccolte curiose di cose naturali e massime dell'Indie, nonché le opere di Francesco Bacone, autore afferma che se non stessi in Inghilterra vorrei facessimo ogni opera davvero dalla nostra. A Parigi fa ritrarre un serpe stravagantissime e altri animali. Certe presenta ancora in parte del Dal Pozzo, come nello stesso Cesi, quella predilezione tutta particolare per il raro, l'esotico, assolutamente eccezionale, che tanto aveva caratterizzato gli scienziati e i collezionisti cinquecenteschi. Il Museo Cesiano, ad esempio, con la coesione di naturali e artificiali, conserva indubbiamente, mi scusi Maccani, molte delle caratteristiche della Wunderkammer. Accanto ad astrolabi, compassi, quadranti, coccodrilli, conchiglie, corna di rinoceronte, troviamo pietre preziose, archi e scarpe turchesche, squadre, statuette, medaglie. Ma se la raccolta... compattezza e una tal compiutezza che di per sé va accettata, e solo mi permetto, ma solo ai fini di un eventuale arrotondamento delle note, di fare quattro aggiuntive, veramente aggiuntive. Una è una sorta di un minimo di problema, vale a dire, si è parlato all'inizio di arcana, no? Da svelare. Siccome ci sono l'ossessione del 600 sono gli arcana imperi, se non ci sia anche questo risvolto di diserzione, diciamo, dagli arcana imperi, proprio perché lì la conoscenza è sommovimento oppure asservimento, perché nel dato stesso in cui si conoscono o si accettano o ci si pone in un terreno pericoloso, la scelta invece degli arcana nature, diciamo, non sia invece anche la possibilità di un terreno di libero esercizio intellettuale, ma nell'atto stesso in cui il mondo conosciuto non è ancora concepito come mondo modificabile, no? Ecco, in cui la conoscenza non è sommovente, diciamo. Questa è così un accenno. È già, l'interpretazione alfieriana del principe delle lettere. Sì. Poi, quanto all'impresa, così come accenno, sì. Penso sia opportuno ricordare che Galilei è intervenuto in sede di elaborazione dell'impresa dei ricoverati di Padova, e c'è un saggio a proposito di Nino Lazzarini proprio di Galilei che interviene nell'elaborazione dell'impresa e nella scelta del motto. Poi la scelta galileiana mi pare viene accantonata perché ce n'è una molto più servile, diciamo, no? Ecco, un altro punto, c'è quel filone neostoico che può essere anche neoepicureo, in sostanza il neostoicismo, il neoepicureismo come redenzione individuale è un modo per sopravvivere alla storia. E io lì guarderei l'atteggiamento sappiamo, nei cui pensieri ci sono delle indicazioni esplicite sul fatto che all'ingrosso non bisogna rimanere rigidamente eretti di fronte all'irrompere degli eventi, ma avere una pieghevolezza, la quale pieghevolezza però non significa cedimento, ma adattamento e capacità di introiezione, diremo, e di solitudine al limite. E in cui il risvolto stoico ha una sua importanza, che peraltro può essere anche neo-epicureo, nel senso dell'austero piacere di Epicuro. E un'ultima cosa, cioè una disperazione lucida e contenuta, un gusto della decenza. E poi un'ultima cosa, ho sentito nominare Antonio Persio, sì. No? Ecco, che mi pare sia un telesiano, no? Che è arrivato a Venezia, Antonio Persio, l'ha ricordato, è stato ostilissimo, viveva a Venezia, ma ha accusato Venezia di impietà. Quando c'è lo scontro per l'interdetto, Antonio Persio, c'è un manoscritto che non si nomea, Marciano, io lo devo averlo visto quasi 20 anni, infatti, quindi è una reminiscenza così molto sbiadita. Ma Antonio Persio, come è stato fuori il nome di Scioppio e poi di Bersere, che è scorretto, appartiene a un filone antiveneziano. E si sviluppa. Professor Dicato. Chi ha fatto frage die im Grunde weiter greift um die Unterscheidung der humanistischen Akademie, die sehr im vorwiegend oder sehr stark ein geselliges Unternehmen ist, und um die Akademiebewegung, insofern sie eine wissenschaftliche Spezialisation, Spezialisierung beinhaltet. Und zwar ist mir in Ihrem Referat heroisch ganz klar geworden, der Zusammenhang der Struktur, der inneren Struktur. Sie haben erklärt, dass Herr Röcker hat beim letzten Kunstor auch apostrophiert, dass hier in dieser Akademie Wissenschaft als Lebensform manifestiert habe, auch die Akademie als Fluchtort aus dieser Welt mit ihren politisch-theologischen Streitigkeiten, wissenschaftliches Arbeiten als mit Blick auf Utilitas, Sie hatten Bacon zitiert, als eine Lebensform. Und auf der anderen Seite haben Sie zum Beginn der Akademie apostrophiert die Analogie der Academia mit dem Orden, auch die Begriffe Militia war gefallen, Orden war gefallen. Nun ist die Frage, ob, nachdem Sie eine Konfrontierung oft gemacht haben, die Fede und Scientia, ob hier diese beiden Elemente vereinbar sind ohne weiteres, oder ob man sagen kann, dass die Ordensterminologie im Grunde eine Weiterentwicklung etwa der frühen Florentiner platonischen Akademie ist, Familia Platonis, nur transmutiert im Geist der Zeit in eine stärker akzentuierte religiöse Form. Wenn dem so ist, könnte man vielleicht sagen, dass die Academia del Lincei von der älteren humanistischen Akademiebewegung den geselligen Teil übernimmt und weiterführt. Man könnte daraus folgern, dass wir die Konstituierung von Wissenschaft als Lebensform in dem Fall noch nicht klar erfolgt ist, eine Mischung zwischen der wissenschaftlichen Zielsetzung und der Persistenz eines älteren, aber mutierten, humanistisch-platonischen Ansatzes. Eine zweite Frage, ganz kurz. Wir haben viel gehört von den Attributen dieser Akademie, Museum, naturwissenschaftliches Wunderkabinett, das aber mutiert zu einem ernsthaften wissenschaftlichen Arbeitsinstrument. Ich möchte hier das Referat von Marcandi gestern etwas integrieren. Man sollte doch meinen, dass die Attribute, wenn eine Akademie Attribute erwirbt, sich als ein kontinuitätsstiftendes Element erweisen, dass also hier der ephemere, fluide Charakter der Akademie etwas durch das materielle Substrat aufgehalten wird. Die Frage wäre einerseits, wie ist der Verfassungsverband Attribute, Musei, botanische Gärten zu den Akademien? Frage Anschluss an Marcandi. Und andererseits, was wird zum Beispiel konkret aus den Attributen der Accademia del Lincei? Allora, preso atto della differenziazione che Olmi ha illustrato tra l'Accademia cinquecentesca e l'idea che propone il Celsi, preso atto anche che nella struttura interna dell'Accademia viene presentata come una forma di vita, come un ritiro dalla vita corrente, in analogia con un ordine, milizia filosofica, si chiede se proprio questa idea di milizia e di ordine non riproponga, secondo nuovi comportamenti culturali e anche linguistici, l'idea della famiglia neoplatonica ficiniana. Questa è la prima domanda. Quindi, da questo punto di vista, un prolungamento. Per la verità, ricordavo già io, Ficino è citato due volte nel discorso. Secondo punto, è stabilito che, soprattutto in questa accademia, qui la domanda va da una parte a Maccagni e da una parte anche ad oggi, stabilito che di un'accademia, di questa accademia, sono attributi specifici, elementi complementari, la biblioteca, il museo e così via. Non viene allora da chiedersi se questi non sono elementi che fondano una continuità nella nozione di accademia rispetto a quell'effimero che si diceva istituzionalmente definito in altri modi. E allora la domanda a Maccagni sarebbe: che rapporto si può istituire tra questi attributi, queste istituzioni materialmente consistenti, tra questa consistenza e l'Accademia come tale? Prima domanda, rispetto al discorso di Maccagni di... Secondo, nel concreto, che cosa è successo di queste dotazioni lincee? C'era il professor Kraft, poi Vasoli. Professor Kraft. Eine Frage betrifft Galilei. Ich kenne aus der Literatur, dass es um 1615 eben um diese verschiedenen Strategien zu einem Bruch innerhalb der Academia Galilei gekommen sei. Meine Frage ist einfach, ist Galilei bis 1630 Mitglied gewesen? Oder wie kam man überhaupt aus dieser Akademie heraus? War man sozusagen auf Lebenszeit gewählt? Wurde man hinausgeschmissen oder konnte man selbst auswählen? So viel ich weiß, bezeichnet Galilei sich in seinen Publikationen nicht als Mitglied der Akademie der Lincee. Das ist die eine Frage. Denn wenn man bedenkt, der Initiator von Galilei passt eigentlich gar nicht in das Programm, das ist ein Gegenstück gegen die Bestrebung, soweit ich verstanden habe, dieser Akademie. Daraufhin darf er eigentlich nicht mehr Mitglied sein. Die andere Frage ist die, habe ich etwas vermisst, Anknüpfungspunkte an meinen Vortrag. Wie weit wurde hier auf dieser Akademie tatsächlich geforscht? Was hat man da überhaupt gemacht? Hat man nur Informationen gesammelt, sie weitergegeben, diskutiert oder hat man tatsächlich etwas gemacht? In dem Zusammenhang die Frage nach den Sammlungen. Ab wann gab es diese Sammlungen und wozu wurden die angelegt als Anschauungsmaterial oder um tatsächlich etwas damit zu machen? Das waren die beiden Fragen. Danke. La prima, io di là non si riesce a sentire, forse qualcuno ha. Un primo punto interessante mi è sembrato il fatto che, mentre abbiamo visto che nelle accademie cinquecentesche la discussione teologica è non solo ammessa ma sollecitata, abbiamo visto nell'Accademia della Fama che la teologia è il primo punto, l'Accademia Fiorentina lo stesso, si fanno passare continuamente argomenti teologici nelle lezioni eccetera, qui è proprio esclusa, questo è il segno proprio del mutamento radicale che è avvenuto, la teologia è esclusa per principio, messa fuori completamente dall'ambito delle scienze di cui si può disputare. Un secondo punto è Olli nella sua bellissima relazione usa molte volte il termine chiesa, nel senso di chiesa come per esempio chiesa ha questa politica, la chiesa si può dire che alla fine vince una certa politica nelle istituzioni, ci sono. Ma non è che ci fosse una sola tendenza politica culturale, altrimenti non si spiegherebbe neanche bene la stessa diplomazia del Cesare. Galileo ha con sé numerosi uomini di chiesa, padre Castelli, padre Cavalieri. Dico, e certamente ha dei teologi che lo consigliano, si vede molto bene le lettere a Cristina di Lorena, la lettera allo stesso padre Castelli, sono scritte da sindacali vero, ma certo, con dietro evidentemente dei consigli ideologici. Ciampoli. Gli stessi gesuiti hanno un atteggiamento per lungo tempo molto guardingo e cauto, certo, tutta la questione. Certamente il Clavio aveva consigliato almeno di essere cautissimo, no? Perché era questione da andare con molta cautela e da non impegnare l'ordine troppo in una discussione molto probabile. Quindi c'erano diverse linee. In fondo dico, Papa Barberini aveva fatto a suo modo una scelta, no? Il testo però aveva fatto una scelta che era abbastanza chiara, perché il suo appoggio a Galileo è indubbio. Ora, che poi per una serie di circostanze influenza anche ovviamente la scarsa capacità diplomatica di Galileo stesso. Ci sia ovviamente eventi che sappiamo, vero? Ma che poi il Papa stesso in fondo sia debba ricordare con la sua apertura politica come culturale, come è accaduto spesso nella storia della Chiesa, vero, però c'erano tante possibilità per anche all'interno della Chiesa, non era ancora completamente pregiudicata la cosa. E un'ultima questione, mi ha colpito proprio sul punto finale, l'osservazione che in fondo le simpatie di molti accademici vanno per Piasburgo, questo è veramente. Cioè, adesso è un punto molto complesso, ma sa che molti. Cioè, Valls è il rappresentante maggiore della Lega Cattolica. Sì, certo, ma il fatto singolare è che proprio il blocco contro le riformiste. Sì, questo è il punto. Già, ma le situazioni sono estremamente complicate. Complicate, certo. C'è anche questa situazione di chiaro. Prodi, poi. Ah, scusate, non avevo visto. Quindi quello che so lo ha preso veramente niente da oggi. E allora mi metto un dubbio, che viene. Tu ti dici che è una società nella quale si esprimono i codici, non sono ammessi estranei alle riunioni. Ergo, per il sospettoso turista, questa è una società segreta. Aggiungi che è un ordine, su questo potrei anche essere d'accordo, anche lo so. Però se è un ordine che non ammette aderenti ad altri ordini, il sospettoso giurista suppone, e questo voglia dire che i monsignori della Curia Romana saranno tenuti rispettosamente fuori. E allora forse sono i regolari. Infatti Ciampoli e Cesarini sono ecclesiati, sono in curia, sono i regolari, chi ha un ordine, cioè i frati, come dice alcuni. Allora, risiedendo a un tipo dall'altra parte, se è un ordine, gli ordini da sempre vengono costituiti attraverso una certa serie di adempimenti formali che sono obbligatori. Quello che voglio dire è questo. Si è reso conto, Cesi, della carica sostanzialmente eversiva di quello che stava facendo. Società segreta e un ordine religioso lo chiama compagnia, che non è stato eretto nelle forme canoniche, se volete, l'espressione tecnica della quale mi devo fare perdonare, guarda che i giuristi non sono molto ben visti. No, abbiamo bisogno di un giurista. C'è mancato dall'inizio della settimana. Se ne sei d'accordo? Beh, allora il discorso l'ha fatto in altra maniera. Seconda domanda era ministro. Hai fatto un accenno alla compagnia di Gesù. Ora, una parte di quello che stiamo facendo adesso è una parte di quello che dalla tua brutta relazione a quello che facesse Cesi rientra completamente nella pedagogia gesuita. Si basa su un'accademia in connessione all'università, in questo senso dicevo che quasi anche un'accademia gesuitica, anche se io sono laico e non ho presenza con la compagnia, è la proiezione accanto all'università, accanto a un collegio di studio, perché l'università è un'altra cosa, una sede di dibattito. Solo che i gesuiti la fanno estesa a tutti, qua sembrerebbe che fosse invece chiusa, soltanto per aderire. Prodi. Io mi collegavo con l'intervento di Vasoli di prima, cioè per me un punto molto importante che è stato toccato è stato quello delle possibili relazioni con l'ambiente dell'oratorio e con questi problemi. Perché da molti punti di vista credo che proprio l'affermazione di una ortodossia rigida sia strettamente collegati invece con una spinta, diciamo, verso l'indagine nel settore delle scienze naturali, almeno in un grosso settore di mondo culturale romano. Mi viene in mente una frase dell'oratoriano Bozio, in un libro stampato proprio negli ultimissimi anni del Cinquecento, De Signis Ecclesiae Dei, il quale comincia così, non so amore, ma sic ut certa fine teneus enunciata sacra, sic in rebus humanis, le cose sono totalmente incerte e non conosciamo né l'origine né gli sviluppi dei casi, della natura, eccetera. Quindi c'era proprio questo tipo di dualismo, non so come dire, insomma, che mi sembra sia molto vicino alle cose che ci ha detto Olmi. E del resto, spesso De Signis Ecclesiae Dei, come ricordava in un suo saggio Poni, ecco, è proprio la rivendicazione alla Chiesa Cattolica, tra le prerogative di superiorità della Chiesa Cattolica, la superiorità scientifica e tecnologica, detto all'ingrosso. E questo avviene negli ultimi anni del Cinquecento, quindi questo corrisponde a una posizione ben precisa, quindi, che va anche certamente al di là e prima dell'Accademia degli Incei, che forse non è questo il substrato per certi versi, cioè, questo è appunto un problema che ponevi tu. Questo poi, secondo me, si collega a quello che diceva anche Benzoni, cioè questi sono in termini politico-ecclesiastici reazionari, perché il Bozio è tutto non ricordiamo la posizione durante l'interdetto, appartengono proprio all'ala più reazionaria, più spagnola, pubblica, eccetera. Quindi noi troviamo questo aspetto di coniugazione, ecco, di un rapporto che indico solo come interesse, insomma, anche in funzione appunto di capire perché i sapi appartenevano a un altro mondo, pur avendo le stesse curiosità, perché a leggere gli scritti di Sartre, insomma, viene da parlare di un'analogia perfetta proprio di questa ricerca continua. Però credo che la diversità proprio sia su questo piano, insomma, anche politico, in questo senso. Posso fare una rapidissima? Per Sartre, conoscere e rompere l'ignoranza delle cose, usa proprio l'ignoranza delle cose. La rottura dell'ignoranza delle cose si traduce in capovolgimento politico. Sì, sì. Ma di fatto c'è questa analogia, però a un certo punto. San Giovanni. Come ha notato Gozzi, che Galileo passa da Padova a Firenze. San Giovanni, poi degli apostoli, San Carlo Borromeo. La posizione a Padova di Galileo, poi prendono San Carlo Borromeo. Così credo ci sia un ragionamento analogo, no? Nel passaggio di Galileo da Padova all'autostrada, esiste appunto questo problema politico. C'è adesso Cavazza, poi Giuliani, poi De Capitani. In relazione all'analogia che oggi si trova tra l'attesamento, la preoccupazione di Cesi, un anche del Ciampi, dei Lincei, di separare nettamente il campo della ricerca sulla natura e la teologia, proprio di espungere dall'argomento di cui si occupa l'Accademia la teologia ed è anche più in generale anche la metafisica. E l'analogia che come fatto un'analogia tra questo atteggiamento e quello della, per esempio, della Dieta della Royal Society, che parte anche proprio della ragione di fondazione della Royal Society, e poi anche con Cartesio. Io ho fatto delle osservazioni. Cioè, è vero che il programma della Royal Society, quello fatto a Cartesio da Hooke e poi ripreso sia da Oldenburg, cioè tutta una serie di documenti, proprio parla esplicitamente di limitarsi a materie di riguardo l'indagine sulla natura, astronomia, meccaniche, tecniche e di non occuparsi di teologia e di metafisica. Però forse chiaramente la situazione era diversa. le ragioni sono, anche se il risultato è lo stesso, voglio dire, le ragioni per cui i fondatori della Royal Society arrivarono a questa decisione erano abbastanza diverse. Spratt mi sembra che dica che loro si univano, diciamo, all'inizio ad Oxford per respirare un'aria più pura, aria più pura e per sottrarsi a quello che era l'ambiente di dissidi, di controversie generato dalla guerra civile. In definitiva la scelta di nascondersi un po' in questo modo, di espungere dai ragionamenti, dalle discussioni, dell'accademia, tutto quello che non era riferito alle tecniche, non era riferito al senso della natura, derivava dalla necessità di ristabilire un discorso comune, la possibilità di una collaborazione tra scienziati che siano schierati o con Carlo II oppure con Cromwell, no? Quindi di ricostituire un livello unitario di discorso della scienza e di istituire con su questo anche un rapporto non servile con il potere una volta la restaurazione avvenuta. Quindi c'è comunque il risultato è lo stesso, però la situazione è veramente molto diversa rispetto, certo, a... Ecco, l'altra osservazione invece relativa a Cartesio non mi ha convinto, perché è vero che Cartesio enuncia nel discorso sul metodo le regole della morale provvisoria, però è proprio una morale provvisoria, cioè l'ambizione e la effettivamente poi anche realizzata di Cartesio è quello di fondare una morale scientifica fondata appunto sulle nuove date della sua filosofia che sostituisca la morale e lo stesso vale non solo per la morale ma per la metafisica, cioè Cartesio si propone con un sistema metafisico alternativo e sostitutivo della metafisica scolastica, lo stesso stile trattatistico usato nei principi di filosofia a questo scopo, no? Allora a me sembrava di individuare questa ambizione, questo quadro metafisico in cui anche la fisica, anche i settori scientifici dell'opera cartesiana si iscrivono, una delle ragioni della diffidenza che credo che tutti si accenda visto in Italia verso Cartesio, cioè mentre c'è una riconosciuta affinità con il bacconismo, con i seguaci di Bacconi e con la Royal Society, cioè nei confronti di Cartesio, proprio per la pericolosità subodorata in qualche modo nell'impianto metafisico del cartesianesimo e con le implicazioni, le possibili programmazioni c'è un atteggiamento di estrema cautela e quindi in che modo direi che una serie di istituzioni scientifiche, una serie di personaggi, di scienziati italiani, come il Colonese in particolare, del secondo 600, in cui sicuramente l'eredità dei musei è presente, almeno per questo modo di guardare i rapporti potere politico, scienza, religione, scienza, manca invece direi proprio completamente un rilacciamento a posizioni come quelle di. Prego. Mi pare che dall'area di diffusione e di influenza di questa Accademia degli Incei manchino soprattutto delle aree geografiche ben precise, in particolare quasi tutto il nord. Cioè manca Genova, manca Torino, manca Milano, manca soprattutto un mondo culturale, quello votato attorno a Padova e Venezia, che ancora verso il 1610-1620 viene considerato uno dei più aperti, recettivi, accoglienti, generosi ed ospitali. Eppure un tentativo da parte di Cesi di penetrare in un ambiente che 18 anni di presenza italiana avevano in qualche modo fecondato e liberato da alcune incrostazioni esoteriche del vecchio stampo è esistito. Per esempio, in una lettera che scrive Galileo il 11 maggio 1613, dopo aver manifestato soddisfazione e compiacenza per i risultati raggiunti nel recuperamento a Napoli, dice che bisogna fare dei passi in avanti, rivolgersi all'estero da una parte, in particolare da Augusta, e per il territorio nazionale, da un'altra parte, in particolare a Padova. che prima aveva cercato di raccogliere i consensi di carattere, diciamo, intellettuale, e poi anche stabilire dei luoghi, come li chiamano lì, delle situazioni vere e proprie. Il risultato di queste penetrazioni, di questa mancanza di penetrazione, è che nel 1625, che è l'apice del successo dell'Accademia, su 32 accademici, accademici a pieno titolo, 7 stranieri e 25 italiani, l'area di fusione di provenienza geografica è questa. 2 provengono da Bologna, 1 da Fabriano, 7 da Firenze, 1 da Matera, 6 da Napoli, 1 da Perugia, 3 da Roma, 1 da Siracusa, 2 da Terni, 1 da Vercelli. Quello da Vercelli è Cassiano del Pozzo, che in pratica è romano a tutti gli effetti. Quindi il nord è completamente escluso. Può dire anche Torino, però, Cassiano del Pozzo, qualche volta. Sì, però dopo il suo stabilimento a Roma, in pratica, però, professionalmente e culturalmente, dovrebbe poter andare avanti. Un modesto tentativo di incrementare questa mancata, diciamo, adesione del mondo veneto all'Accademia dei Licei è stato fatto da Galileo quando nel 1614 aveva proposto l'aggregazione di un uomo d'arme friulano, un certo Daniele Antonini, che però a quanto pare aveva l'unico merito di essere stato suo scolaro di matematica a Padova. Per il resto avvengono contatti soltanto a livello individuale e personale. Cioè c'è una corrispondenza per il Colcesi di Giovanni Polo, figlio del protomedico veronese Francesco, è una corrispondenza del carattere botanico, del carattere logico. C'è una corrispondenza anche con Giovanni Antonio Mancini, non soltanto Colcesi, ma anche con Galileo, che conosco tutti. Però avviene quando il Mancini si è già trasferito dal 1588 nello studio di Bologna, dove insegna per 30 anni in seguito. Quindi non si può più riferire veramente né a Venezia né a Padova. Poi c'è un'altra cosa da ricordare. Le vicende successive dimostrano che nel 1630, è una pura coincidenza cronologica, quando muore il Cesi, praticamente muore anche l'Accademia, si forma Venezia, quella che sarà la più famosa Accademia del primo Seicento, e cioè l'Accademia degli Incogniti. Mentre l'Accademia del Cesi nasce dall'iniziativa di una persona di pochi volontari aderenti, quella degli Incogniti è frutto di un intero ambiente. In particolare di un ambiente che è nettamente contrario a Galileo e all'insegnamento galileiano, soprattutto a una certa pratica culturale. Lo dimostra tre anni dopo, in un anno molto critico per Galileo, che è proprio il 1633, un libro di duro attacco, di dura polemica verso Galileo, soprattutto il suo modo di insegnare e di comportarsi in un certo modo nella realtà italiana, che sono le esercitazioni filosofiche del padre Antonio Rocco, che è uno dei più furiosi aristotelici di vecchio stampo di tutto l'ambiente veneziano. E questo continua ancora fino a fine secolo praticamente, perché come ha constatato Pagini nell'ultimo volume degli Annali Naudiani, anche i successori di Galileo sulla cattedra di matematica, che sono gloriosi, sovero degli angeli, in pratica, anche se sul piano della competenza scientifica sono forse superiori a lui per quanto riguarda la matematica, per quanto riguarda invece le consuetudini sperimentali, le lasciano completamente da parte. E questa viene ripresa soltanto dal Montanari, da Guglielmini, sì, ma che vengono da Bologna, che sì, vengono infatti da Bologna. Però dice appunto il Contadini che questi tre provengono da aree che non coincidono né con Padova né con Venezia. Certo. Si sono formati, hanno insegnato altrove. Certo. Guglielmini e Montanari a Padova, il fratello addirittura Messina e a Parigi non rimolato a Verra. Quindi mi pare che tutto sommato, anche se non esiste questa divisione della servitù in cui sbarla Benzoni in certi intellettuali veneti, padovani o italiani, certo la libidine e la ricerca della chiusura, della negazione e del disinteresse, dell'incomprensione, del fastidio verso tutto quello che rompe certi collegati schemi esoterici, tutto quello che rompe un collaudato anche culturale esiste e soprattutto nello Stato Veneto. C'era De Capitani. Ich möchte anknüpfen an eine Frage, die vor zwei Tagen gestellt hat und die mir doch eine ganz zentrale Frage dieses Seminars zu sein scheint, nämlich die Frage nach der Gleichzeitigkeit der Akademien mit wissenschaftlichem Charakter südlich und nördlich der Alpen. Ich glaube, wir sind dieser Frage jetzt schon viel näher gekommen. Ich erinnere daran die ganze Frage der Beziehung Akademie und Zustand der Universitäten in Italien. Das müsste man jetzt auch für Deutschland untersuchen. Und die Frage aus der Wissenschaftsgeschichte, was bedeutet Erkennen und was bedeutet Verwertung des Erkennens, wie wir sie aus den wissenschaftsgeschichtlichen Vorträgen gehabt haben, wie es vorhin auch Herr Historik noch ein ganz kurzes zusammengefasst habe. Jetzt möchte ich ganz, ich weiß, die Frage ist vergessen, aber wie ist diese Akademie, der Lincei, einzuordnen in die Akademiebewegung Italiens? Ist es die große Ausnahme oder gibt es dann, geht das weiter? Sie haben gesagt, der geringste Teil der Akademien hat wissenschaftlichen Charakter. Aber wo situiert sich dieser geringste Teil? Zeitlich, lokal und in ihrer Bedeutung? Allora, diceva che ci siamo avvicinati ancora di più al problema che aveva già posto alcuni giorni fa. Il problema della contemporaneità, della situazione di qua e di là dalle Alpi per quello che riguarda la situazione delle accademie e anche il rapporto con lo stato dell'università. Bisogna arrivare a questo punto a un confronto e a delle dislocazioni. Secondo, viene ancora il problema che cosa significa in concreto conoscere e qual è la valutazione che viene data del conoscere anche in rapporto al problema del misurare, eccetera. Ultimo punto, in definitiva allora, in rapporto al movimento delle accademie, l'Accademia dei Lincei rappresenta un'eccezione, un termine diciamo così definito, vi sono in questo caso altre situazioni che si possono richiamare ad essa nel mondo italiano? Qui vorrei anch'io fare alcune domande e precisazioni. Io ho la sensazione che lo studio di un personaggio come il Cesi sia interessante perché, ma è proprio la causa più difficile, perché si tratta di vedere come nascono quelli che in psicologia si chiamano le motivazioni del nuovo e del diverso, che si fondano evidentemente su modelli, ma nello stesso tempo li trasformano e in qualche caso li trasvalutano. Perché? In questo caso è veramente un problema importante, che del resto poi, se non sbaglio, per molti storici della scienza sta diventando un problema importante. Perché quella scelta? E qui io ho la sensazione che bisognerebbe allargare il discorso, cosa che non credo sia stata ancora fatta. Lo stesso Baldini sta portando il suo discorso di sociologia della scienza, per quello che posso intenderlo io, verso soltanto i ruoli sociali. Ma io in questo caso mi richiamerei a Fevre, la psicologia sociale è anche psicologia degli individui come tensione e come correlazione. Ora, perché uomini come Castelli e Cavalieri scelgono una certa strada? Perché uomini come Cesarini e Ciampoli dicono certe cose su Galileo che di là dal linguaggio dell'epoca implicano altro, parlano alla lettera di una rivelazione che nel linguaggio anche di quel tempo è molto simile al concetto di conversione, cioè trovare la propria strada. C'è un problema di fondo e ho la sensazione che la teologia venga rimossa perché è uno dei punti, non è soltanto un problema di prudenza, è che per loro la vita religiosa è altro. Ho la sensazione che per alcuni il libro della natura non è i topoi si arricchiscono sul piano della vitalità e delle scelte. Io almeno penso che lo studio dei topoi ha un senso perché si storicizza volta a volta per ciò che diventa quel topos nel dizionario vivente di un individuo. Ora, ho la sensazione che per loro sia il libro della natura, non il libro sacro, il libro della natura sia cosa tutta diversa, in fondo più devota e più modesta, la parola modesta è secondo me importante, del discorso metafisico. C'è un rifiuto del discorso metafisico che vive in se stesso, che non ha più commisurazione, uso qui non nel senso di Fermesnay eccetera, ma commisurazione c'è, credo che sia un'analisi che si debba fare, perché altrimenti una realtà veramente drammatica scontare in un'analisi secondo le nostre categorie, che sono molto più povere, devo dire, di quello che è quella realtà composita di problemi non previsti, che scoppiano tutti contemporaneamente e che nessuno è più in grado di risolvere. Credo abbia ragione anche Vasoli quando dice la Chiesa, ma per quello che ricordo io, in Vaticano ci sono dei gruppi diversi, ci sono alcuni, i curiosi, quella parola curioso è un indizio, ci sono persone che hanno un interesse per certe cose. Perché ci sono? Poi ci sono quelli che si battono e quelli che stanno a vedere, perché poi tanta gente si fa indietro. Noi ci dimentichiamo che Sforza Pallavicino, l'interlocutore di Sarpi, che non è soltanto quello, è anche poi scrittore di cose di morale di notevole qualità, solo che noi non studiamo, Prodi lo sa, un suo scolaro studiò certe cose e vennero fuori dei fatti abbastanza singolari. Sforza Pallavicino è amico intimo di Ciampoli. Quando succede a Ciampoli che per ragioni politiche, oltre che galileiane, viene fatto fuori, va via da Roma, si occulta per un certo periodo, poi già dico, ma prende certe posizioni, ma allora appendiamoci a quello che accade anche nel mondo contemporaneo. Uomini di uno schieramento che lentamente passano a uno schieramento opposto. C'è una situazione molto drammatica, io non direi la riforma cattolica, ma certo la motivazione individuale di alcuni di coloro che di monastero vogliono essere scienziati, che vedono in Galileo in certe cose una rivelazione, ha anche dei fondamenti etico-religiosi, per i quali però ci mancano ancora delle analisi adeguate. Teniamo conto anche, noi, il problema dei modelli di comportamento è un problema che esiste. Ora, distinguiamo tra Loyola e il gesuitismo, per un momento, se è possibile. Vediamo la vita di Loyola, che è un grande modello di comportamento a livello religioso e a livello laico, perché è un modello guerriero. Milizia eroica è una formula, e quando Olmi ci racconta di quel gruppetto che si trova, andiamo a leggere la vita di Loyola, che poi viene riprodotta, eccetera, anche là c'è una certa operazione di un piccolo gruppo che comincia, eccetera, eccetera. Quindi forse convivono insieme anche misure diverse, perché si è citato il neostoicismo, ma Lipsio è stato a Roma, si è incontrato con Mirè in un momento decisivo in cui dal ciceranesimo si passa all'anticiceranesimo, qui la scelta degli stili implica altre cose, è presente anche per l'ultima parte della sua vita, entra il De Costanzia da una logica a quelli che erano degli esempi di comportamento che valgono poi in molte direzioni. L'idea dell'eroico e del martire è un'idea molto molto evidente. Quando il Mascardi fa un elogio di Cesarini che muore, lo presenta come in un grande quadro secentesco, ma nel senso più alto della parola, come un eroe che combatte con la morte e continua a credere nel sapere. Ci sono degli... Noi non abbiamo ancora fatto analisi di questa natura. Il caso del Cesi è un caso fortunato, nel senso che vediamo come avviene in realtà un ansatz, cioè un attacco a qualche cosa, come si riprende, si interrompe qualche cosa. Le interruzioni si pagano largamente, vuol dire in qualche modo uscire. E qui il discorso di Pecorella ha un suo peso, bisognerebbe anche che vedessimo bene che cosa vuol poi dire cifrato, perché... Io vorrei appellarmi a un esempio psicologico corrente, non so se ad altri, ma io ragazzino, e ricordo certi gruppi, avevamo il gusto di scrivere in cifra, esiste come dimensione dell'adolescenza che prende, che si allontana dalla comunità già data. Che cosa poi voglia dire, di là dalla categoria psicologica, questo è sicuramente un altro problema. Non c'è dubbio che i familiari hanno paura di alcune di queste cose e che questi giovinotti capiscano sino in fondo, questo è sicuramente un altro problema. Io però vorrei sottolineare, sono opportune anche le precisazioni, dove penetra a questo punto una certa logica lincea, che vuol dire poi di fatto una strategia galileiana. Il problema vero di questa accademia è che con tutte le sue astrazioni si trova ad avere un personaggio e una politica culturale. Perché non c'è dubbio che il legame con Galileo è a questo punto decisivo. E tanti anni, ma io ricordo, Cesi si preoccupa, hanno in mente molto per tempo un rapporto preciso con l'università, che è per loro un centro di potere. Gli aristotelici sono un centro di potere, lo sanno bene. Allora, per fare una battaglia bisogna operare per linee interne, bisogna sospendere tutto il resto, di là dalle molte motivazioni che vi possono dare. La prima però è questa: fatto un bilancio delle forze, bisogna fare una scelta, non si combatte a tanti livelli, bisogna fare un'operazione prima, che è quella autentica della penetrazione. Nel discorso del Cesi, a un certo punto, perché ci si renda conto del concreto, si fa un'analisi del perché le nuove cattedre o quelle che comportano nuove discipline non vengono occupate all'università, e dice: in questo momento ci sono due cattedre di matematica in due grandi università che non sono occupate, perché, e si capisce bene, gli interessi, che erano poi quelli che in realtà operavano, se ne accorse ancora Malpighi, alla fine avevano proprio questa funzione di chiudere rispetto a dei piccoli modelli alternativi certe percezioni, si sentivano molto bene. Il problema del potere è questo in concreto, il problema dentro l'università, se ricordo bene, addirittura Cesi, e qui siamo nell'utopia, dice: bisogna disancorare la nomina delle nuove cattedre da un gioco di potere che non le opererà mai in una certa maniera, deve essere un'accademia fuori che designa i grandi scienziati, che è ingenuo ma copre un problema, perché poi di fatto lui segue come arrivano certi personaggi, e qui ci arrivano o non ci arrivano. La domanda è: perché a Bologna arrivano certi personaggi e non arrivano in altri luoghi? Perché Cavalieri è a Bologna e non altrove? Quindi bisognerebbe fare un poco anche alcuni. E si va di bene, Cavalieri, se ricordo bene, dà notizie, questo siamo già avanti, di quanta gente lo ascolta, perché questo vuol dire il consenso e la strada che si sta facendo. Questo è il problema che intanto vogliono portare avanti, e che a Bologna si radichi con molte ragioni una tradizione di un certo tipo. Non vi sono evidentemente dubbi, i personaggi citati sono personaggi poi operanti anche in realtà miste, Montanari eccetera, che poi è anche un cartesiano e così via, che vanno verso il nord e arrivano sino a Vienna. Quindi è un'accademia con tutto questo, ma ha un'operazione concreta, che è quella di introdurre in un vecchio paradigma elementi, piccoli elementi, ma sufficienti a creare già dei nuovi equilibri di un altro modello culturale in formazione, con tutta una quantità di equivoci. Ma se non teniamo conto che è una battaglia vera, fatta con misure che sono quelle che dobbiamo poi definire, non ci rendiamo conto della concretezza di questa utopia. Io credo che questo vada veramente sottolineato. A questo poi si aggiunge, e noi ce ne dimentichiamo, io credo, un dramma terribile. Perché quando noi pensiamo che dopo la condanna di Galileo, i suoi scolari religiosi debbono impegnarsi a fargli visita, non parlando più di scienza, quando è chiarissimo che nella scienza pensano che ci sia anche, o noi li calcoliamo questi fatti? Qui due ultime, se mi è concesso, precisazioni. Io credo che dovremmo arrivare finalmente a fare un'analisi ad alto livello della parola simulazione, che noi continuiamo sempre a interpretare, anche quando vogliamo amplificarla, in una dimensione di moralismo moderno. Non c'è santo che tenga. non c'è santo che tenga. Intanto dovremmo subito metterci vicino, anche se in Italia gode di cattiva stampa, la parola compromesso. Dovremmo cominciare l'arvatus prodeo. Dovremmo intanto dire che il problema della simulazione, della dissimulazione, compare nel momento in cui i quadri antropologici si amplificano, vengono amplificandosi, e ci si rende conto che i comportamenti sono multipli. Questo è il primo problema. Ci si rende conto che l'ambiguità, se si potesse dire nel linguaggio dell'ambiguity letteraria a un positivo, nell'altro a un altro, è la connotazione della pluralità del reale. È una delle cose che vengono più analizzate. Il 600, da noi meno, altrove di più, è il secolo del grande moralismo come prime analisi di comportamenti in una realtà nuova. Pensiamo a Graffian, a ciò che significa poi in Francia e ancora di più in Germania fra Schopenhauer e Nietzsche. Ora, la parola simulazione ha molto a che vedere con la parola pluralismo. È la rottura di un imago mundi univoca che crea problemi di probabilismo e di altro. Comincia per la prima volta, perché il problema della teatralizzazione secondo me è quello, comincia la coscienza dei ruoli e il problema della personalità, che è divisa tra tanti ruoli, con i personaggi che sono avanzati e retrocessi secondo le opportunità. E da una parte si può essere con il mondo tedesco di un certo tipo, e dall'altra, ma pensiamo a Urbano VIII, quando Barberini va al soglio papale, questi uomini dicono: abbiamo vinto, è oramai la nostra partita, è uno dei nostri che è arrivato al massimo, è la politica che si è realizzata. Ciampoli non ha dubbi, ha già in mano, deve poi diventare anche cardinale, via via. A questo punto cambiano le situazioni, i grandi momenti politici, eccetera, eccetera. Per tornare indietro, il problema della simulazione, il problema cioè della strategia dei comportamenti, è una parola che comincia a essere usata, strategia. Si pensi a Graffian e all'uso che fa della idea della vita come una guerra, che implica una strategia. Ma non è semplicemente il problema della finzione, vuol dire questo: ci si rende conto dei comportamenti simbolici, del fatto che la società è una pluralità di figure, una pluralità anche di poteri. E certo, il problema del potere diventa un problema determinante, con tante conseguenze di natura. Io vorrei soltanto dire, non userei la nozione di uomo manieristico usata da Schnur, che a mio avviso fa retrocedere la sua analisi, perché la nozione di uomo manierista è una delle tante mitologie, e poi l'esempio di Pontormi è affascinante, ma devo dire che come ogni caso clinico, e Pontormi è un caso clinico, definisce solo se stesso. Il problema in questo caso degli spazi del singolo in una realtà che vuole occupare tutto, è una realtà di potere, probabilmente va analizzato con altri strumenti pluralistici, cioè con sistemi di comportamento, senza ricorrere a una formula, anche se è affascinante, che invece scioglie a priori tutti questi problemi. Ci sono delle difficoltà, a questo punto analizziamole, ci sono delle psicologie inconcrete, situazioni con strumenti mentali in parte definiti e in parte ancora oscillanti, e con futuri, perché questa è la verità, che nessuno ha in pugno, così come li abbiamo conosciuti noi nella nostra vita, quando da una certa fase, con una guerra o altro, passiamo ad un'altra fase. E sappiamo tutti anche che cosa vuol dire il mancato. Quanti di noi si portano dentro, proprio nella propria storia, diverse generazioni, ciò che non è accaduto. Direi che in certi casi ciò che non è accaduto è la cosa più importante che resta dentro la nostra stessa esistenza. Qui cominciano vicende di questa natura. Volevo dire, qui l'Accademia non è più soltanto un'istituzione, è un'istituzione con tutte le difficoltà, degli strumenti mentali secondo cui occhiuti, vigili, osservatori si muovono, ma è nel preciso anche la storia di individui che fanno delle scelte, sbagliano, non calcolano tante cose, hanno intuito certe situazioni e fanno della storia della scienza pagando perché la stanno facendo con certe possibilità. Questo direi è molto importante. È un modello in cui istituzione e vivente diventano una cosa sola e si debbono illustrare a vicenda per l'enorme quantità di difficoltà quando paradigmi e situazioni si ampliano, si complicano e nello stesso tempo sono terribilmente gestite dal potere. Tutta una logica va in una certa direzione. Il neostoicismo è da una parte strumento di liberazione individuale, ma dall'altra è una filosofia dell'energia e dell'atto politico ed entra anche nella dimensione di una realtà così complessa come lo Stato assoluto. Quindi ci sono diverse funzioni che giocano contemporaneamente. Qui io resterei ancora fermo col vecchio Fevre, l'ambivalenza come nozione di ricerca, come nozione di ricerca, come definizione di contesti individuali, non può essere sacrificata al suo opposto, che non è più altrettanto strumento di ricerca. Chiedo scusa, parole proprie che ho detto. Ja, das ist, das war ein großer Beitrag zur Geistesgeschichte. Ja. Und von den Fragen, die die Kollegen gestellt haben, es waren einzelne, wie zum Beispiel von Herrn Vasoli, nochmal der Hinweis auf die theologische Ausschluss der theologischen Fakultät und dennoch des Weiterführens der theologischen Diskussion. Es waren manche Beiträge, die vieles bestätigt haben oder noch verdeutlicht haben. Es waren allerdings einige Fragen, die auch eine konkrete Beantwortung erfordert haben, wie zum Beispiel, und das möchte ich doch nochmals wiederholen, die Frage nach dem Schicksal der Attribute nach dem Untergang der Akademie, die Frage, wie weit, schien mir sehr wichtig, wie weit Attribute wie Bibliothekssammlungen ein Moment der Kontinuität, der Stabilisierung einer solchen Vereinigung sind. Das war eine Frage und eine Frage von Herrn Kraft, ganz präzise, ob Galilei bis zum Ende des Bestehens dieser Akademie, bis zum Tod von Cesi 1630 Mitglied im eigentlichen Sinne gewesen sei, das wäre vielleicht doch der Beantwortung wert. Posso velocemente? Vabbè, allora Cesi perché sei di marito morto, per quello. Ja, gut, ja. Secondo me stride con tutta la produzione a stampa dell'Accademia dei Lincei, che è il saggiatore di Galileo. È stato un errore o come se non fosse? In che senso stride? Nel senso, le altre sono tutte opere sì. Stessa opera sul Mani Giovanni, certo, è una compromessa. In realtà non è un'opera d'astronomia, ma è un'opera di fisica. Sì. Si tratta di rendere conto di osservazioni. L'Accademia Gesuitica del Collegio Romano del 1611 aveva già approvato in un certo modo che se si accettava la semplice osservazione senza andare al di là dell'osservazione e arrivare alle estreme conseguenze, il discorso poteva anche essere accolto. Quindi per me le macchie solari non creano problemi in questo senso. Però è possibile che avendo letto il saggiatore l'Accademia Lincea e il Cesi non sapesse l'idea che si tirava addosso tutti i primi? Sì, tutto in una volta. sì. Dopo si spinge troppo Das vielleicht ist es besser, das soll mit Nachmittag antworten kann. Tutta particolare per questa, per l'Accademia Romana. come poi su come concretamente vengono disposte le collezioni del CESI, anche su questo non posso dare una risposta. L'unico elenco che ci è giunto è l'elenco che è stato fatto dal, per dire in termini di anni, dal curatore testamentario del CESI, cioè al momento della vendita a Cassiano del Pozzo è stato steso un inventario dei beni del CESI, e quindi così è. Abbiamo tutti i libri e poi tutti i oggetti, senza che si possa sapere quale fosse la disposizione appunto di queste collezioni all'interno del palazzo cesiano. Una cosa interessante però è che questo curatore distingue quelli che sono gli, cito letteralmente, gli strumenti matematici di Ottone dal resto della collezione, cioè corna di rinoceronte, scarpe turchesche, eccetera, occupano 4 pagine. Poi alla fine c'è una pagina dove tutti questi strumenti matematici sono per conto loro, sono quasi che il curatore avesse capito che questi oggetti così rappresentavano qualche cosa di nuovo, diciamo così, rispetto a quella che era così, la struttura un po'. Della Bundercamp, quasi che avesse capito che la collezione aveva anche una funzione, così vogliamo dire, di sfalco, mentre questi oggetti, questi strumenti, invece rappresentavano degli strumenti di lavoro scientifico effettivo. Scusi, il professor Kraft aveva anche chiesto che ricerca si esercitò in concreto nell'ambito dell'Accademia. Dunque, sì, una cosa è naturalmente il programma teorico dell'Accademia, come ho detto, è una cosa, è ciò che fu veramente realizzato. L'unica cosa grossa, sicuramente importante, che i Lincei hanno fatto in comune è stata appunto l'edizione del tesoro messicano. Altre ricerche non sono state fatte, anche perché il CESI si è trovato ben presto a dover a che fare con tutta una serie di parenti. Le sue ricerche? Quelle sue ricerche sulle piante minerali di CESI stesso? Sì, però non sono giunte. Cioè... Ah, certo, però sono ricerche. Ah, beh, sì, cioè, come ricerche, certo, CESI soprattutto copre il campo, diciamo così, delle scienze naturali, e mentre evidentemente Galileo sappiamo quello che ha fatto, e CESI ha. Aveva grandi progetti che purtroppo non si eccetto la Piarium, che poi sì, è uscito molto ridotto, ma anche molto importante perché, come tutti sanno, rappresenta sì, una cosa eccezionale, abbiamo la prima, diciamo così, visione grafica microscopica dell'Alpe, e altre cose del CESI non ci sono giunte. Naturalmente, cioè, il CESI si proponeva di costruire questi edifici autosufficienti, in cui ci fossero l'apporto botanico, laboratorio e museo, in cui gli accademici, chiusi dentro praticamente, lontani dal piacere della carne, sì, era vietato anche il matrimonio, se non ricordo, dovevano dedicarsi esclusivamente alla ricerca scientifica. Ripeto, questo fu concretizzato molto parzialmente, in realtà i Lincei utilizzarono quelli che era la biblioteca personale del CESI e quella che era la collezione degli strumenti cesiani, perché ripeto, il CESI ha avuto a che fare con una serie di fratelli affamati di soldi che reclamavano la loro parte di eredità, con cognati pure che volevano solo tutta la sua vita. È stato un dramma così, con questa gente che voleva succhiare continuamente del denaro, per cui ben presto così si è trovato a corto di soldi e non ha mai potuto, ad esempio, neppure comprare mai un edificio per il liceo napoletano. Insomma, una vicenda da tanti anni, si è cercato questo palazzo a Napoli per fare la sede del liceo e poi non se n'è mai fatto nulla. E effettivamente dopo gli anni 20, soprattutto dopo i 25, il CESI è anche molto ammalato, morirà di un tumore alla vescica, e così anche se continua a seguire l'Accademia, chiaramente il suo impegno, diciamo così, si affievolisce. E quello che diceva il professor Vasoli, sono ovviamente pienamente d'accordo sul fatto che all'interno della Chiesa fossero varie tendenze, se così vogliamo dire, che non si possa dare una visione monolitica. Io chiaramente quando nella relazione ho usato i termini chiesa intendevo usarla per disegnare quella che era la linea vincente, diciamo così, la vincente del momento. D'altra parte il fatto che un Cesarini e un Ciano, che appunto fossero dentro l'Accademia Lincea, sta a dimostrare questa varietà di tendenze. Dirò di più, lo stesso Bellarmino, questo personaggio, ieri tra l'altro era San Roberto Bellarmino, questo personaggio che è considerato cattivo dalla Punta Riforma per eccellenza, è in realtà una persona molto intelligente, rappresentava, a mio avviso, una sensazione, ma una certa garanzia per la sopravvivenza dell'Accademia. Ecco, sempre per rispondere all'ultima domanda di Marcani, secondo me il saggiatore non è un'opera che stona, perché i Lincei in quel periodo sapevano di contare ancora su delle personalità influenti. D'altra parte, gli stessi gesuiti in blocco sono loro stessi che in una certa maniera tirano fuori dei pasticci Galileo, che perlomeno non insistono nel corso, così, non del primo processo, insomma, più quasi. Il professor Pecorella, sì, ecco, questo rituale come codice cifrato e così via, cioè questa segretezza molto spinta, va detta, bisogna dire che va circoscritta al primissimo momento dell'Accademia, quando sono solo questi ragazzi tra i 18 e i 24 anni, insomma. Anche il codice cifrato, soprattutto posteriormente, quando va avanti, quando viene usato dal Cesi e soprattutto allorché parla dei propri parenti che continuamente ce l'hanno con lui, quindi hanno paura che intercettino le lettere e così, quindi continua a usare questo codice. E tutto, diciamo così, questo apparato di segretezza spinto, così come tutto l'apparato esteriore, insomma, morti, brevi, simboli, così vengono abbandonati ben presto dall'Accademia, proprio nel momento, proprio dal 1609, cioè quando l'Accademia inizia veramente a funzionare e non è più ristretta a questo piccolo cenacolo dei quattro giorni. Gli agganci con la pedagogia gesuitica, se ne discuteva stamattina con Raimondi e con Marcani, credo che siano senz'altro evidenti, e proprio Raimondi e Marcani suggerivano, cosa che non ho fatto, di confrontare un po' il liceografo, ad esempio, con la razza studiosa dei gesuiti, per vedere di cogliere eventuali punti di contatto e di affinità. Sempre il professor Corella chiedeva se Cesi si rendeva conto di questa struttura alternativa, per così dire, che stava creando. Ma in fondo questo non lo so. Una cosa è certa, Cesi si rendeva conto della originalità assoluta della sua istituzione. Questo emerge chiaramente, la diversità della sua accademia da tutte le altre della penisola. Probabilmente non si rendeva conto di dar luogo a appunto un'istituzione alternativa e che sarebbe potuto diventare sospetto, diciamo così, per il potere ecclesiastico. Per cui alla fine tutte le sue precauzioni, le sue continue cautele si rivelano inutili. D'altra parte, il fatto stesso che attivasse questo tipo di cautele, insomma, che consigliasse i membri dell'Accademia di non esporsi troppo, sta a dimostrare la coscienza del Cesi di aver creato un'istituzione di tipo completamente nuovo. Riguardo a quello che diceva la Marta, la Cavazza, sì, sono perfettamente d'accordo su quello che dici. Evidentemente a me interessava, come tu stesso notavi, cioè il punto finale che poi viene a coincidere con la posizione di Lincea. È vero che nella Royal Society, appunto, sta facendo un po' diverso, cioè i membri aboliscono discussioni teologiche e politiche perché provengono, appunto, cioè chi è proprietario, chi è monarchico e così via, cioè hanno differenti posizioni al loro interno. Ecco, anche se così ho il sospetto che neppure a livello alto la situazione politica generale in Inghilterra possa ancora ben stabilizzarla. Riguardo a Cartesio, hai detto che, d'accordo, Cartesio ha questa posizione che definisce una provvisoria, ma poi fonderà quello che vuol fondare è una nuova metafisica, ma d'altronde anche il Cesi, diciamo così, quella del Cesi è una posizione provvisoria, come diceva Raimondi, giustamente stamattina, non è che ci si volesse così in eterno mantenere questa posizione di segretezza dell'Accademia. Cesi appunto vuole così circonda l'Accademia di queste cautele proprio in un primo momento, cioè finché i tempi non saranno maturi, cioè le cose importanti hanno bisogno di molta pazienza, ma è chiaro che sua intenzione, proprio coinvolgendo più larghi strati di studiosi, di uscire pian piano allo scoperto, fino ad aggiungere, come diceva Raimondi, ad occupare addirittura dei posti, diciamo delle cattedre all'interno stesso dell'università. E oltretutto voglio chiarire, ma giustamente Raimondi ci è tornato sopra stamattina, che non è mia intenzione dare nessun giudizio di tipo moralistico quando ho usato appunto in termini di simulazione. Giustamente Raimondi diceva stiamo attenti a quello che noi oggi intendiamo per simulazione, cioè il doppio gioco, atteggiamento spregevole e così via, da quello che era un atteggiamento normale, se vogliamo, per sopravvivere degli intellettuali del tempo. Ulvioni. Ecco, Ulvioni, ringrazio Ulvioni perché ho fatto un lavoro che devo sempre fare a questi mesi, vedere a modo da dove venivano questi personaggi, e vedo che lui molto, in maniera molto documentata me l'ha già detto. Anche se ritengo che così sia una cifra, quella di 32, sia una cifra poco significativa per trarre delle conclusioni, perché se tu togli gli stranieri, come hai detto, gli italiani cosa rimangono? Sui 25, ecco, calcola anche 7-8 nominati alla fine, quando ormai Cesi è ammalato, cioè vengono messi dentro senza così, senza che su di essi si abbiano così, senza che siano molto apprezzati, senza che su di essi abbiano precise conoscenze, quindi il nucleo si restringe di molto. Ed è mia impressione che in realtà, cioè, due siano i grossi centri dei licei, cioè uno soprattutto, cioè Roma e la Germania. Perché se tu ti rifletti, cioè i licei che contano o stanno proprio a Roma, Cesi, Cesarino, Ciampoli, Faber, o finiscono a Roma ben presto, come Cassiano del Pozzo, o comunque anche un Galileo, voglio dire, è a Firenze, ma vuol dire la città a cui guarda, a cui fa capo, è Roma, è la Roma che Galileo vuole sfondare, è a Roma che Galileo vuole portare avanti il suo programma culturale. Quindi distinguerei grosso modo questi due grossi poli, Germania e Roma, dando addirittura la preminenza a Roma. Come mai non ci sono accademici licei dell'area padovana e veneziana? Beh, qui non lo so, il problema è complesso, certo, tenendo presente alcuni elementi. Galileo sta a Padova, vive una stagione felice e continua a avere degli amici, là. Però se pensiamo anche alle lettere del Sagredo, che gli scrive da Padova, quando via da Venezia, non mi ricordo più, a un certo momento non ho Siria. Dove in Siria, sì. Esatto, è uno dei frutti baluardo veneziano in Oriente, se ben ricordo. Queste lettere del Sagredo sono pesantemente ironiche nei confronti di Galileo, che appunto il Sagredo così accusa un po' di servilismo, di essersi messo a servizio al potere, di aver abbandonato quella che era l'atmosfera più libera di Venezia. Se poi penso al contatto di licei con uno Sciocchio che scrive contro Venezia nel momento dell'interdetto, scrive contro il Sarpi, anche se lo Sciocchio è stato un personaggio, poi scrive contro il Sarpi, ma poi andando in Germania passa da Venezia a avvisare il Sarpi che cercheranno di farlo fuori, come di fatto avviene dopo pochi giorni. Ecco, se pensiamo a quello che diceva Benzoni, che non sapevo, cioè di questa polemica evidentemente anti-veneziana di Antonio Persio, che pure è un altro liceo, anche se ha scritto postumo, comunque era già vicino ai licei inizialmente, forse questi possono essere tutta una serie di motivi che riescono a spiegarci come mai appunto dall'asse Padova a Venezia non venga reclutato nessun vice. Ecco, perché Capitani che vive sulla terra dei licei rappresenta un unico in Italia. Io credo sì che sostanzialmente i licei e il cimento siano le uniche due accademie che, per quanto riguarda il 600, legittimano questo nostro per l'Italia, legittimano questo nostro seminario, cioè sono le due accademie esclusivamente scientifiche, insomma. Il il Ben David che ha fatto sulla base del MyLand, una statistica accademica scientifica, giungendo a percentuali tra lo 0,2, 0,3, 0,5, ha tenuto tutto conto di quell'accademia in cui compare anche la finalità scientifica, ma anche da presta, cioè quella letteraria, giuridica e così via, esclusivamente scientifica e con programmi esclusivamente scientifici, ovvero che oltre ai licei e al cimento, null'altro ci sia in Italia. Accademia ciampiniana, però fisico-matematica. Sì, almeno una terza. Quella della traccia, di Bologna, di Montanari, una serie scientifica. Montanari è solo. È una propagine del cimento, però sono varie. È una sezione staccata. Quella valdiviana, quella valdiviana. Sicuramente non c'è un tessuto però di accademie, un tessuto di accademie scientifiche nel 600, cioè. Però il legame tra l'una e l'altra ci sono, legami biografici tra i fondatori, sì, o addirittura una collaborazione per accademie, insomma, quando è possibile. E poi lì c'è la mediazione di Ricci, con l'Accademia di Francia, appunto, no, eccetera. Sono tutte le relazioni. Ci sono le relazioni, quindi non è... Tutti i rapporti Oldenburg-Nazari, per cui il giornale dei letterati, piace tutto. Da lontano. 68 e dopo. Sì, ma i rapporti con Oldenburg come sono? C'è più tardi. Non mangi i rapporti. Sì, sì. 2 anni dopo la pubblicazione. Quindi qualche cosa c'è. E poi l'Accademia Correr di Venezia, scusatemi, che quella è una istituzione molto importante. Purtroppo non ne si è scritto mai niente. Messa insieme, da sappiamo, da Montanari, da Bianchini, eccetera. E però che siamo fine 600. Sì, allora, era la nuova dotata. Era dotata di strumenti di osservazione unici, che potevamo organizzare soltanto con Greenwich oppure con l'osservatorio. Sì, però. D'accordo, cioè, però a fine 600 io via. E Salotti, insomma, questa strana impresa di Salotti, padre di fine 600, risulta di sempre, no, però. Sono... No, il 700 entra il 700. Vabbè, però non si vede nessuno. Certo. Un po', chiedo scusa, per dare ordine, sì, sì. Se tutte le osservazioni vengono fatte così, molto mi dà una risposta. Sì, sì, no, no, ma io quando un intervento così... No, ma io non prego di continuare. No, un'evoluzione, perché mi sembrava ridurre un po', insomma, una ora. No, parla così. Ma così dette alla rinfusa, insomma, non ho occupato un discorso, però mi pare che il numero dell'Accademia sia superiore alle due. I centri sono Lombardia deserta, Piemonte deserto, Liguria anche se vogliamo, però insomma, Baliani eccetera, non è poco insomma, con rapporti diretti col Collegio Romano, Sembrerebbe, ma bisognerebbe fare un'inchiesta maggiore fra gli scienziati dopo l'80 in Italia, che ci sia il senso di certi richiami, perché altrimenti non si capiscono certe battute, certe caute riprese del vecchio discorso, si arriva fino alle osservazioni del buon gusto del muratore o al De Ingegnor Moderazione, dove non c'è dubbio che sta riprendendo quel tipo di problema. D'altro canto poi i vari Malpighi con Borelli dietro sapevano di certe cose, le avevano vissute per testimonianza, era come se sapessero di quelli che avevano. Esperienze francesi in questo caso, insomma, è Camille Chiosa, sappiamo che allora, aveva curato quella sezione speciale, cioè l'inchiesta sul mondo delle tecniche, che sarà poi, sappiamo, un grande serbatoio a 15 gradi da volta l'enciclopedia, le tavole, le tavole che invece ci ristanno, sono in genere tavole del un secolo prima, messe insieme da questi volontari accademici, in testa lo su, e cerchè. L'orologio dice che sono 6:15 e prima avevamo detto che alle 7:15, quindi facciamo bene i conti. Dobbiamo essere là. Alle 5 quasi, quindi fra 10 minuti dobbiamo avere concluso. 6 minuti. Allora, höchstens, denn eigentlich müssen noch ins Kriterium. parlo di 6 minuti. 5 minuti. 110. Anche io. Non tutti. No. Quello qua è una richiesta, perché io ho cercato di alzare la mano, ma non sono stato messo. Chiedo veramente. Ma perché io ero non persuaso di... Il gioco delle palle è passato. Vabbè, comunque adesso faccio finire con... E poi faccio la domanda. Non è così. Ecco, poi, sempre dei capitani, ho una domanda molto grossa, cioè cosa significa riconoscere un vario per licenze? Cioè, conoscenza, come dicevo stamattina, è conoscenza dei licei, è conoscere le leggi della natura per poter poi conoscere i meccanismi, diciamo, quelli di funzionamento della natura per poter intervenire così concretamente sulla stessa, eventualmente per modificarla e soprattutto per così trarre dei vantaggi per l'uomo e per la vita dell'uomo. Ecco, sempre a porto così della conoscenza del metodo scientifico, c'è un piccolo salto dei licei, volevo solo dirti questa cosa, che stamattina non ho fatto tempo a dirti, che è molto interessante, che fa vedere come i licei siano sintonizzati con Galileo. Mentre ancora alla fine del 500, tutto collegato con l'evento stato di Fer e le cose più recenti di Raimondi. E quando ancora alla fine del 500, appunto, Aldrovandi parla di colore, odore, sapore e tatto per venire in cognizione perfettissima dei misti, ossia perfetti e imperfetti, quindi colore, odore, sapore e tatto, Giovanni Winter invece scrive al Faber, interessantissimo, che ha fatto l'anatomia di un papiglio, e parla di certi filamenti che rassemblavano nella sostanza colore, e qui va bene, ma poi aggiunge grandezza, larghezza e lunghezza, rassomigliava a quelli vermicuccoli che in Germania si sogliono trovare nel caso vecchio chiamato pecorino. Sono in Germania. Quindi in traduzione scrive, e a tedesco l'Inter evidentemente pensava. Quasi quei vermi italiani. Quindi, cioè, non abbiamo più queste categorie appunto di odore, sapore e tatto, ma entrano concetti così di misura come grandezza, larghezza e lunghezza, che sono in perfetta sintonia con quanto appunto Galileo dice nel Saggiatore, appunto su quelle qualità primarie e secondarie, appunto Galileo appunto nel Saggiatore definisce invece sapori, odori e colori, definisce pure i nomi. Quindi c'è questa sintonia, diciamo così, ancora ulteriormente ribadita tra i licei e Galileo. Poi Carlo Maccani cosa ha detto? Io qui non ho trovato. Ha risposto tutti, solo che c'era una domanda supplementare che è cattivissima. No, niente, la domanda, volevo chiedere. Non sapevo se ho fatto la maniera degli oretti ieri sera. Ma non sì, ho visto. Però differenziamo domanda da risposta. Sì, la domanda brevissima da una risposta. No, solo che sia insieme. Mescolanza. Volevo chiedere se, adesso mi pare che sia evidente, chiaro. Non si assiste nella lettura, nella elaborazione del programma dei licei, quella ipervalorizzazione o supervalutazione della ragione scientifica come conciliatrice, pacificatrice, eccetera, insomma, c'è la crisi di quella conoscenza, di quella alcionia di cui parlava Spratt, eccetera, e che alla fine proprio genererà una alice. Sì, cioè direttamente così io non ho trovato, però cioè, c'è il processo opposto, cioè continuamente si dice che la ricerca scientifica e il progresso è garantito solo dalla concordia e dalla pace. Quindi cioè, se vogliamo, cioè, parte dal punto opposto rispetto a quello che tu chiedevi. Sì, ma il contrario invece è l'abitudine alla ricerca scientifica che genera la concordia e la collaborazione, cioè induce comportamenti insoliti, nuovi, e che quindi possono essere il germe di una umanità diversa, migliore, un'umanità non più litigiosa, non più aggressiva, ma invece collaborante volontariamente a costruire una città del mondo. Cioè, accenni esplicite sicuramente in questo senso non ci sono, ecco. Infatti ora mi sembra molto veramente. Cioè, che la stessa rende migliore. Sì, proprio per ora. Ma non mi sembra. La scienza moderna, cioè la scienza sperimentale, non quella disputante che invece provoca l'accelerazione di sì, contrasti, conflittualità, eccetera. La teologia di vita. Professor Lenzo Vega. Se non è dal quarto di fa, ha Londra, le porte, eccetera. Mi dice Lorenzo, sentiamo.